filosofia, comunque del diritto sì, e si parlerà di questo appunto il professor Aschieri, che è uno specialista di questo problema e che, come del resto molti tra quanti sono intervenuti in queste giornate come, diciamo così, conferenzieri, ah, è le cose che ci fa piacere e che abbiamo apprezzato anche negli altri, il quale ci porta non solo dei risultati, ma ci porta anche il contributo di ricerche in movimento. Perché se questi nostri giorni qualcosa hanno voluto significare, tra l'altro hanno significato un contatto non con ricerche concluse, se non in qualche caso, ma piuttosto con ricerche in movimento, con, diciamo così, la generazione degli studiosi più in movimento e più giovani. Ma io cedo senz'altro la parola. Grazie mille. Io devo dire che prendo la parola con un certo imbarazzo su un tema così ampio, diritto ed umanesimo, proprio perché così generico, insomma, e quindi comprensivo di tante realtà e di tanti problemi, che credo porrebbe in imbarazzo anche degli studiosi di complessione ben più robusta della mia. Parlare di diritto umanesimo per due secoli non è che sia cosa troppo semplice. E devo dire che naturalmente l'imbarazzo cresce dopo aver ascoltato le relazioni di ieri con dei personaggi così grossi, possiamo dire, oratori così brillanti e acuti. L'altro motivo che crea dei problemi per questo colloquio è che probabilmente una parte dell'uditorio non conosce il libro intorno al quale si sviluppano queste mie osservazioni, cioè gli inizi dell'umanesimo giuridico di Domenico Maffei. Ecco, questa mia relazione è una sorta di bilancio retrospettivo sulla fortuna e un po' sulla impostazione di questo libro, un bilancio critico sull'impostazione di questo libro, che finora è l'unica sintesi che abbiamo sul problema dei rapporti tra diritto e umanesimo. Ora, è un libro che ha avuto una grossa fortuna, questo Gli inizi dell'umanesimo giuridico, che ha avuto molte ristampe anche, però il Domenico Maffei, il suo autore, non è più tornato sul tema. È un libro che è apparso nel 1956 e da allora l'autore poi si è dedicato ad altre cose. Qualcuno di voi probabilmente conosce il libro sulla donazione di Costantino nei giuristi medievali, conosce altri suoi lavori, insomma, di storia della letteratura giuridica più propriamente, insomma, sul tema non è tornato. Ora, questa monografia, Gli inizi dell'umanesimo giuridico, conteneva anche l'auspicio che la storiografia giuridica e quella politica e letteraria, e più in generale con la storiografia della cultura, trovassero finalmente un raccordo, cioè trovassero finalmente un punto di congiunzione. Però è difficile dire che effettivamente questo incontro tra storiografia giuridica e storiografia politica, o comunque più generalmente storiografia della cultura, sia avvenuto. Ancora pochi anni fa, al congresso di Venezia sulla critica del testo, Carlo Dionisotti doveva lamentare questo stato di fatto, rilevando con opportune notazioni quanto quell'incontro sarebbe stato fruttuoso per tutte le discipline interessate. Comunque, dalla consapevolezza di una crisi, qual è questa che ad esempio si ritrova nelle parole di Dionisotti, al suo concreto avvio risolutivo allo scioglimento della crisi, la strada è lunga e non è stata ancora percorsa interamente. Anzi, va osservato che proprio mentre la storiografia giuridica sembra segnare dei nuovi traguardi, qua e là, almeno sul piano del metodo, ampliando i propri interessi, recependo tecniche che si sono già affermate in altri rami storiografici, e quindi ampliando anche proprio i suoi interessi, in modo vistoso, in modo da porre le premesse per questo aggancio tra storiografia giuridica e le altre branche storiografiche, che sono andate un po' ognuno per conto proprio, ecco che sempre dall'interno della storiografia giuridica cominciano a circolare delle preoccupazioni circa gli indirizzi filologici che prenderebbero piede, che porterebbero così alla sterilità la storiografia giuridica, o altrimenti anche ci sono delle voci così che vorrebbero che la storiografia giuridica contribuisse direttamente a risolvere la crisi della scienza giuridica positiva attuale. E voi capite che questo è un problema che risolvere come storici non è che sia molto semplice, insomma, no? Comunque, nel frattempo direi che non sempre anche le altre discipline storiografiche si sono giovate della storiografia giuridica, e molto spesso il peso delle strutture giuridiche non viene considerato nella storiografia politica o sociale, insomma, ecco, anche storiografia della cultura più in generale. Sicché io non mi sono neppure molto meravigliato quando in un passo della storia d'Italia dei Naudi ho trovato uno storico della cultura presentare il digesto e le pandette come due cose diverse. Ora si dirà che questo è un caso limite, si dirà. Sui giuristi della storia d'Italia, scusi, ce ne sono, ci sono fiori. Ci sono, sì. È meglio non parlare. Ma già soltanto questo equivoco la dice lunga su questa incomunicabilità un po' tra queste branche storiografiche. Questa premessa direi che non è fuori luogo, perché conduce a dar conto direttamente di questa lacuna storiografica che noi lamentiamo per il 3-400 sui rapporti tra diritto e umanesimo. Altro discorso invece bisognerebbe fare se noi considerassimo il 500, perché naturalmente per il 500 abbiamo tutta una serie di lavori, sia per il 500 tedesco, pensate soltanto ai lavori di Guido Kisch, insomma, per fare il 500 francese, poi insomma da Bude in poi è studiatissimo proprio dal punto di vista delle strutture giuridiche, no? Tutti i grossi personaggi, Dumoulin, c'è ora quello storico americano, il Kelly, che sta dedicando la maggior parte proprio dei suoi lavori tutto a figure dell'umanesimo giuridico francese, ma siamo appunto nel 500. Non invece nel 3-400, che continua a rimanere scoperto. Ora, la prima osservazione quindi che credo si debba fare è che è necessario un nuovo impegno su questo tema. È un nuovo impegno che è necessario non solo per risolvere problemi specifici della storia giuridica, ma direi che è necessario per avere un quadro più ampio della cultura stessa del 3-400, per poter giungere a dei risultati più concreti nel delineare, nel fare un bilancio della cultura 3-400esca, dei suoi limiti e delle sue aperture al tempo stesso. Vi dicevo che appunto questo nuovo impegno è necessario perché siamo sempre alle prese con questa unica opera di sintesi, che è quella di Maffei, che ormai a più di 20 anni, risale a ricerche condotte più di 20 anni or sono, e poi per di più era un'opera condotta in un'ottica non diretta specificamente a risolvere i problemi del 3-400, quanto a capire, a cercare di risolvere il problema della crisi italiana del 500. Cioè Maffei in sostanza si chiedeva, e da questo punto di vista esaminava i rapporti tra diritto ed umanesimo nel 3-400, si chiedeva perché il 500 italiano vede la scienza giuridica attestata su posizioni tradizionali, gotiche, direbbe Villanovic, no? Su posizioni gotiche, mentre naturalmente c'era stato questo exploit culturale del 400. E perché invece contemporaneamente la Francia conosceva l'exploit umanistico proprio nel 500. Quindi il suo problema era principalmente un problema cinquecentesco, e nei confronti di questo problema il 3-400 era una premessa, insomma, una premessa culturale che serviva per fare un certo discorso sul 500. E quindi le sue pagine sono un po' fondate su lavori che erano poi lavori che erano apparsi precedentemente. C'è un lavoro ottocentesco del Darré, poi c'è Buoni Amici sul poliziano filologo del diritto, c'è un francese Girard sui preliminari della rinascenza giuridica in Francia e così via. Ora io direi invece che a questo punto bisognerebbe considerare i singoli temi e i singoli personaggi e soprattutto cercare di rapportarli a ogni centro culturale. Cioè, io credo che bisognerebbe insomma impostare un lavoro organico, un lavoro che non vedo come non possa essere interdisciplinare, perché è difficile valutare il peso specifico di certe affermazioni che noi troviamo nei giuristi o che troviamo negli umanisti senza avere un apporto di conoscenze che il singolo specialista in genere non ha. E quindi bisognerebbe far convergere, insomma, gli studiosi della letteratura umanistica, gli studiosi anche delle istituzioni giuridiche e sociali basso-medievali, rinascimentali, che dir si voglia, su un programma coordinato proprio, con delle scadenze non casuali, ovviamente, per poter risolvere questi problemi. Ora, fatte queste premesse, io non vorrei essere troppo prolisso, insomma, se vedete che il discorso si allunga troppo, ditelo chiaramente e io taglierò come si deve. Né vorrei essere troppo, non so se c'è qualcosa che non si capisce, ecco, se preferite che vada più lentamente, come credete, insomma. Dunque, io direi che questo incontro può riuscire positivo se innanzitutto riusciamo a fare un inventario dei problemi più importanti che sono aperti sul tema diritto ed umanesimo, se riusciamo a chiarire il quadro generale entro cui questi problemi vanno inseriti e se riusciamo a far emergere qualche prospettiva di ricerca. Il tutto tenendo presente la necessità di un aggiornamento bibliografico, naturalmente tenendo presente delle ricerche che sono state fatte dopo il lavoro di sintesi di Maffei. A questo punto direi intanto che il primo impasse che nella storiografia sembra ora superato, proprio esorcizzato, è quello di una definizione rigorosa di umanesimo, dalla quale puoi far discendere la collocabilità entro il movimento umanistico di questo o di quel personaggio, ossia l'enunciazione, insomma, di caratteri, di connotati essenziali che consentano di parlare di giurista umanista o di umanista giurista, insomma. Connessa con questa puntualizzazione è la perplessità che oggi noi possiamo nutrire circa la unitarietà del fenomeno che vogliamo chiamare umanesimo giuridico o giurisprudenza umanistica. Unitarietà che non consentirebbe di separare un primo umanesimo o preumanesimo con dei suoi iniziatori e con certe caratteristiche rispetto ad un umanesimo più maturo e quindi, in poche parole, insomma, quella unitarietà che non faceva distinguere un umanesimo padovano, mettiamo, trecentesco, dall'umanesimo pavese, quattrocentesco. Sotto questo profilo, quando Maffei sostanzia l'umanesimo giuridico, questi sono i caratteri che riconosceva nel movimento dell'umanesimo giuridico, di storicizzazione del diritto romano, nuova concezione circa la validità del diritto romano e infine metodi e motivi unitari. Direi che di fronte a questa caratterizzazione lo sforzo di ricostruzione sintetica condotto dall'autore abbia portato quasi ad una semplificazione di una realtà che è molto più sfaccettata e molto più articolata, insomma. Ora la storiografia sull'umanesimo ci fa conoscere quali e quante articolazioni si debbano individuare all'interno del movimento e come non di uno ma di più umanesimi si possa anche parlare, no? e che è necessario distinguere nel tempo e nello spazio, ancorché poi ci sia qualche caratteristica ovviamente comune che permette naturalmente di tenere in piedi la stessa categoria storiografica di umanesimo. Direi proprio che ogni epoca e ogni centro culturale ha dei propri problemi specifici. È da questo punto di vista che direi che il problema dell'umanesimo giuridico, che è anche il problema dell'umanesimo e del diritto, va rivisto. Ora, per venire al 300, il secolo si apre naturalmente, come c'è stato poi così brillantemente esposto, con il cenacolo padovano dei vari Lovati, cioè Lovati è morto nel 9, insomma era già, comunque questa figura rimane vivissima, Mussato e così via. Ora io qui volevo semplicemente precisare, cosa che però ieri Billanovic Giuseppe in un inciso ha già detto praticamente, volevo precisare che questi non sono giuristi, questi sono dei notai, e sono dei giudici, cioè personaggi, giudici in genere erano tratti poi dal ceto notarile, nella una prassi così delle amministrazioni comunali basso-medievali, non c'è nulla di strano insomma questo, no? Notai molto impegnati nella vita politica, che avevano voce nella vita politica, e questo spiega anche perché erano impiegati come giudici. Ecco, ma mi sembra che questo preumanesimo padovano nasca con scarsi rapporti con lo studio. Praticamente rapporti con giuristi veri e propri, cioè con docenti dello studio padovano, o influssi di questo preumanesimo nelle opere dei giuristi padovani, io, per quanto so, non ne sono state riscontrate. Quindi è un fenomeno che rimane legato proprio a questi personaggi che vengono fuori dal mondo notarile, che dobbiamo tenere presente, le scuole notarili erano un po' più vicine alle scuole d'arti che non alle scuole di diritto. Insomma, qui Orlandelli ha fatto tante precisazioni insomma su questi punti, e poi voi tutti sapete che appunto le artes dictaminis e così via erano insegnate proprio nelle scuole notarili, e quindi il legame è più con le facoltà d'arti che con le facoltà di diritto. Quindi io direi che non ci sia neppure troppo da meravigliarsi se questo preumanesimo viene fuori dal ceto notarile e non da veri e propri giuristi. Quanto poi a queste aperture del mondo notarile verso la cultura classica, dico, non si fanno che apportare conferme. Ora è venuto fuori quel catalogo della mostra perugina sul notariato perugino, che ha curato l'Abbondanza, e che lì ci sono di nuovo, c'è una corrispondenza di fine 200 che riguarda, ci sono due o tre lettere di due notai milanesi ed uno perugino, che riguarda la tradizione dell'Ovidio Maggiore. E siamo nel 1270, mi pare, una cosa di questo genere. Questi notai parlano tra di loro e si chiedono in prestito una copia dell'Ovidio, insomma, per poterlo copiare, così via. Insomma, è soltanto una delle innumerevoli conferme che vengono fuori in continuazione. Insomma. Quindi direi che questo cenacolo preumanistico per il nostro problema può essere accantonato, anche perché questi personaggi, non mi pare, a parte quegli spunti sulla politica, insomma, non mi pare che abbiano lasciato delle dichiarazioni sul diritto e sullo Stato, tanto meno sul diritto romano, che proprio mi sembra che non se ne occupino assolutamente. Ora, il quadro però cambia presto quando si affronta il periodo petrarchesco. Ecco che allora abbiamo tutta una serie di giuristi, veri e propri giuristi questa volta, spesso docenti e comunque personaggi che hanno lasciato una produzione giuridica scritta che ci è pervenuta, che sono stati in rapporto col Petrarca o con personaggi a lui strettamente legati e che hanno mostrato interessi, se non proprio umanistici, comunque nuovi rispetto a quelli dei loro predecessori. L'umanesimo si fa sentire in questi personaggi nella maggiore varietà del loro impegno di scrittori o nella loro formazione culturale. Come noto, è un periodo legato ad esempio all'affermarsi come solido, seppur effimero, centro culturale della Napoli angioina, e in cui si intreccia un fittissimo scambio tra la curia avignonese e la Francia meridionale, in genere, Napoli, l'Italia settentrionale e Firenze collateralmente. Sono perfettamente d'accordo con Villanovic che il centro del mondo allora è Avignone, anche da questo punto di vista. La galleria dei personaggi che andrebbe studiata sotto il nostro profilo è lunghissima, ma qualche esempio può bastare. Dunque, io vi do soltanto alcuni esempi che servono per chi ha un po' di dimestichezza con la letteratura giuridica, servono a sentire che c'è qualcosa di nuovo. Si pensi al domenicano Bartolomeo da San Concordio, morto nel 47, autore della diffusa Summa cosiddetta Pisana, opera interamente gotica, però anche di trattati grammaticali e filosofici, e infine di un volgarizzamento di Sallustio, notevole per il latinismo del lessico e nella struttura sintattica del periodo. Un altro, Landolfo Colonna, delineato dal Villanovic, prima praticamente sconosciuto, morto nel 31, già studente di diritto a Bologna, raccoglitore di una biblioteca insigne, uno di quei personaggi che si muovono tra i vari canonicati francesi e raccolgono manoscritti ovunque. Nel suo poco diffuso Tractatus Brevis de Pontificali Officio già esorta a non perdere tempo nello studio dei legisti, non del diritto, si noti, ma dei legisti, rimproverati per il picturatus loquendi modus. A Bologna ci si riporta con il glossatore ordinario delle nuove raccolte di decretali pontifice e senz'altro il principe dei canonisti del 300, almeno del 300, Giovanni d'Andrea. Originario del Mugello, morto nella peste del 48, caro amico di Cino da Pistoia e del Petrarca, col quale scambia tante lettere, Petrarca gli rimprovera ad esempio di mettere Valerio Massimo in cima agli scrittori morali. Il D'Andrea è autore di un sommario sempre su Valerio Massimo, di un altro lavoro su San Gerolamo, lo Hieronymianus, che è tanto inconsueto di nuovo per un giurista. Inoltre, credo non a caso, se si pensa al gusto per il biografico che ha fatto così, che ha diffuso il Petrarca, egli inserisce negli ultimi anni della sua vita, nel 46 mi pare, una vera miniera di notizie sui giuristi precedenti, notizie proprio biografiche quasi, o comunque sulla produzione letteraria, nelle sue addizioni ad uno dei più grossi libri del 200, insomma, lo Speculum del Durante, di Guglielmo Durante. Per la loro importanza queste addizioni saranno poi molto utilizzate dal Diplomatazio, che è quel, diciamo, Vasari in XVI, della storia giuridica. Ora, a Giovanni d'Andrea certamente non si può accostare per la grandezza di giurista un personaggio come Guglielmo da Pastrengo, morto nel 62, ma perché il cancelliere Scaligero, notaio, avvocato, già allievo di Oldrado da Ponte, altro personaggio grosso, giurista d'Avignone, in rapporto anche lui con Petrarca, cui rimprovera di preferire la poesia alla giurisprudenza, è autore di un De Originibus Rerum di poco posteriore al 1329, in cui anche qui si soddisfa il gusto per il biografico. Ci sono dei profili di giuristi romani e di alcuni giuristi medievali. E quel Guglielmo che troverà poi un successore nel Bandini, Domenico Bandini, dei Fons Memorabilium Universi, cui lavora il Bandini a Firenze intorno dal 1387, mi pare, fino al 1418, insomma, no? E soprattutto è un po' il modello poi che serve a Baldo degli Ubaldi per comporre il De Commemorazione, famosissimorum, doctorum, utroque iure, che è una sorta, che doveva essere una sorta di storia letteraria del diritto, scritta negli ultimi anni del 300, che è andata perduta, cioè apparentemente è andata perduta. Per ora non si conosce. L'appello del Petrarca, che aveva lamentato che non si conoscessero i padri della giurisprudenza, venne quindi raccolto, anche se nel senso più consono a chi sentiva il bisogno di dar lustro alla propria disciplina e al proprio ceto. Altro personaggio ben noto come giurista e come cultore di classici è il Lapo da Castiglionchio, signore, il Lapo del 300, no? Uno dei personaggi più notevoli, più più grossi della vita politica fiorentina a mezzo del Trecento. Ugualmente noto per i suoi rapporti con Petrarca da un lato, legato anche con Niccolò Acciaioli, che ci riporta di nuovo a Napoli. Dovebbe luogo quell'incontro Cino-Boccaccio e dove la fioritura del primo Trecento lascia qualche traccia notevole anche per noi. Qui basterà ricordare un personaggio come Pietro Piccolo da Monteforte, iniziato al gusto per la letteratura da Cino. È un amico del Barbato, è corrispondente del Boccaccio, è autore di una difesa della poesia, è un miles e legum professor nello studio napoletano, è giudice della Magna Curia, va ad Avignone in missione più volte, è lo stesso personaggio che, come ha dimostrato Giuseppe Villanovic, ha lasciato glosse autografe al Valerio Massimo del Vaticano Latino 1919. Dipendente in gran parte da Dionigi da Borgo Sansepolcro, e che mostrano anche qui di nuovo questo intento di risalire alle fonti di Valerio Massimo per confrontarle con altre fonti, che è un po' poi la tendenza generale del 3-400. Ebbene, è sempre un commento su Valerio Massimo, dedicato a Gregorio XI negli anni 70, che ci ha lasciato l'altro giurista meridionale degno di ricordo in questa sede, Luca da Penne. È autore come giurista di un poderoso commentario agli ultimi tre libri del Codice Giustinianeo, dedicato al cardinale Pierre Roger de Beaufort, divenuto poi appunto Gregorio XI. Quindi sui tre libri, su quella parte cioè del Codice Giustinianeo che la tradizione medievale aveva accantonato perché riguardava soprattutto la struttura amministrativa dell'impero, erano stati un po' trascurati questi libri. Ora, la sua biografia, questa di Luca da Penne, è ancora per tanti aspetti oscura, perché non si sa neppure con precisione se salisse una cattedra universitaria, come vorrebbe il Fournier in Francia, ma certamente finì come segretario papale ad Avignone, da dove scriverà il Petrarca per alcuni codici ciceroniani, che gli erano necessari per la realizzazione di un'opera a cui veniva stimolato dal pontefice. Ebbene, Luca scrive la sua opera maggiore dopo il 48, anno di morte del personaggio, anche qui legato al Boccaccio, che lo aveva stimolato all'opera. Chi era? Paolo da Perugia, il bibliotecario di Re Roberto, il personaggio che si interessa, il commentatore di Persia, insomma. Ma anche più interessante è che egli si accosti al testo dei tre libri, Quorum, Explanazione, Glossator, Plerisqui, Plerisque locis erravit, e che proceda pertanto alla correzione della glossa con un linguaggio classicheggiante, curando le spiegazioni grammaticali e dei vocaboli inusitata, come dice. La sua Explanatio Uberior mette a frutto una massa cospicua di fonti extragiuridiche dell'antichità greca e romana, un bagaglio letterario che il Besta poi, insomma, un po' troppo generosamente voleva parificare a quello del Petrarca. Ma tiene anche davanti, Luca da Penne, mentre scrive il suo commentario, quattro codici dei tre libri, ne sceglie le varianti, annota e sceglie le varianti della tradizione, e motiva anche queste scelte nelle varie lezioni, non trascurando di criticare anche la disposizione delle singole costituzioni e delle rubriche all'interno dei tre libri, e denunciando che l'errata interpretazione di alcune disposizioni derivava soltanto da errori nella loro tradizione manoscritta. Come si vede, sono molteplici gli elementi inusuali che si riscontrano in Luca da Penne, e non ultimo per importanza poi il suo stesso atteggiamento nei confronti del diritto che studia. Egli sa che è morto quel passato, il passato che trova nei tre libri, o che almeno tale è ritenuto, cosa che ne giustifica anche la trascuratezza da parte dei giuristi medievali, naturalmente. Ma Luca si chiede, è veramente morto il passato che c'è nel Codice Giustinianeo? Se i tre libri che commenta non si applicano, è ob defectum justitiae, perché ora si hanno tiranni ed arbitri. I membri di un ordinamento non sono più cives, ma legati col giuramento di fedeltà che è una quaedam servitus. E allora, alla tragica situazione del presente, egli contrappone come un modello di imitabile, a quanto pare, civiltà giuridica, oppone il modello legislativo romano, imperiale romano. Ci fosse oggi un sovrano come quello, come Giustiniano, lamenta Luca, fosse vigente quel diritto, anziché aver di fronte questo stato feudale ed anarchico, meridionale o francese, chissà qual era la realtà precisa che aveva di fronte in quel momento. Il problema, tuttavia, richiede altre indagini. Direi perché? Perché una lettura in senso antifeudale di Luca sembra poi contraddetta, come ha rilevato ultimamente la Giuliana D'Amelio, dalla sua strenua difesa del diritto romano, in opposizione a quello longobardo, difendendo il quale, contro il diritto romano, un'intera scuola di feudisti meridionali giungeva a contrastare la commerciabilità dei feudi a favore del potere centrale. Cioè è un problema molto complesso, questo della posizione da dare al diritto romano nella questione appunto del diritto feudale meridionale. Comunque è possibile ad esempio che Luca parlasse adesso avendo di fronte la realtà francese. Ecco, questo è un problema, direi, che va un po' chiarito. Tralasciando comunque questi particolari e riprendendo il discorso appunto più generale su Luca, se a tutto ciò aggiungiamo che il nostro giurista è consapevole del novus stilus con cui affronta il testo, che la sua opera poco diffusa nel 3-400, non conosciuta neppure dal diplomatazio, nei primi anni del 500 viene edita in Francia da Jean Chapuis, che è l'editore di poche altre fonti insomma importanti, che la dice tempore quae multo semi sopita fuit, ed ebbe gran successo in Francia, nella Francia del 500, ove nel frontespizio l'autore viene detto Gallus o Tolosanus, anche se dal testo poi è chiaro che è abruzzese, insomma, che dipende, anche perché tutt'altro escluso probabilmente che abbia insegnato a Tolosa. Ecco, forse il Tolosanus può derivare da una tradizione in quel senso. Comunque, se noi teniamo presente tutti questi fatti, siamo in grado di capire l'eccezionalità del lavoro e il posto che a Luca spetta nella letteratura giuridica non tradizionale del 300. Che poi Maffei, nel collegare quest'opera con la tradizione politica e giuspubblicistica meridionale, ne neghi il carattere umanistico perché dei tre libri Luca intendeva, anziché storicizzare le norme, favorire l'applicazione pratica alla realtà giuridica del presente, mi sembra un frutto di quell'impostazione generale di cui dicevamo prima, no? Che non è più così salda come era vent'anni fa. Ora, ad esempio, c'è quel lavoro grosso apparso in Germania 2 anni fa di Hans-Erik Troje, Greca Leguntur, sulla appropriazione della tradizione bizantina nel 500, nella giurisprudenza del 500 e la formazione di una vulgata umanistica del corpus iuris civilis. Ebbene, quello che viene fuori da questo lavoro di Troje e da altri suoi lavori preparatori, insomma, che faceva sul 500, è che il fine precipuo perseguito dai giuristi umanisti fu per l'appunto l'applicazione concreta delle norme del diritto romano, non del diritto dei dottori italiani, del diritto romano, e che la storicizzazione di quel diritto, del diritto romano, fu solo una conseguenza dell'attività di restaurazione filologica della normativa romana stessa. Ora, comunque sia, mi sembra non contestabile che Luca ormai opera in modo nuovo nei confronti del testo, per quanto poi, ma se ne vedranno i motivi, i modi di argomentare e di presentare i problemi siano quelli tipici della sua epoca. Luca da Penne è un probabile allievo di Simone da Bossano, il noto grande esponente di nuovo della curia papale, ci riporta attraverso Avignone ad un altro personaggio emblematico del giro petrarchesco, Alberico da Rosciate, possessore di una discreta biblioteca letteraria, noto cultore di studi danteschi, e autore poi di poderose opere giuridiche, come il famoso Dictionarium Iuris, che è il primo grande dizionario giuridico, in cui vorrebbe spiegare i termini ambigui, i termini giuridici ambigui, è autore anche di piccoli trattatelli come De accento, De ortografia, e siamo sempre in questo giro d'anni, insomma, 50, 60, 70, insomma. E è un altro personaggio che non sembra aver mai salito una cattedra universitaria, e anche questo è un fatto che bisognerà più spiegare in qualche modo. Tuttavia, la divaricazione tra formazione umanistica e operosità scolastica entro la scuola, che notavamo ad esempio nel Castiglionchio, è in lui forse anche più grave. Si tratta di un uomo certamente al corrente dei dibattiti umanistici e che tuttavia non per questo si sente preclusa la strada dell'argomentazione giuridica tradizionale. Anzi, nella sua operosità di giurista teorico c'è un forte aggancio pratico, si pensa appunto al Dictionarium e all'Opus Statutorum, e non a caso Alberico da Rochette verrà ricordato come il Magnus Practicus della giurisprudenza medievale. Una certa bivalenza, non più nella formazione e negli interessi culturali, quanto proprio nell'opera, sembra riscontrarsi anche in Giovanni D'Alegnano, il maestro del Castiglionchio, famoso per tante operette come ad esempio il De Bello, che ne hanno fatto un punto di riferimento d'obbligo nel dibattito sulle origini di una regolamentazione giuridica dei rapporti internazionali. Questo autore, morto nell'83, operante soprattutto nel clima bolognese inaugurato da Giovanni D'Andrea, ha lasciato opere di tipo etico-teologico ancora fortemente gotiche, diciamo, ma anche un De amicizia, ispirato naturalmente ai classici, ha interessi astrologici accentuati, in un codice gaddiano di contenuto umanistico troviamo un prognosticum per il 1365, ha un De cometa, che fu ben noto a Salutati, un De cometa dedicato sempre a Gregorio XI, e poi soprattutto un Somnium. Che cos'è? Un dialogo tra un miles e un chierico sulle prerogative del Papa e dell'Imperatore. Questa parte si intitola anche De Principato, ha anche una tradizione a parte, in cui si dispiega un tenace orientamento teocratico, ma che ha come scopo principale non già la polemica politica, bensì quello di difendere lo studio del diritto civile e canonico contro gli attacchi delle altre discipline, e che pertanto dovrebbe leggersi come una tra le prime reazioni da parte dei giuristi all'attacco umanistico. Anche Luca da Penne, però, si noti, difende già il diritto contro la poesia, attaccando i poeti, ma solo quelli simplices, il che è già significativo, contro i poeti che osano ergersi contro i dottori illustri, ma sono proprio le prime voci, siamo alla metà quindi del 300. Ancora nel 1340, Signorolo degli Omodei, rinomato giurista milanese, in una questio si poneva soltanto, come ha rilevato Dionisotti in quel contributo di cui parlavo, il problema della prestanzia tra dottori e cavalieri, del tutto incurante quindi del posto attuale preteso o auspicato da medici, filosofi e umanisti. Il D'Alegnano e Luca da Penne invece sembrano mostrare l'emergere di una nuova problematica. Altri, e sono i più, l'ignorano tranquillamente. Pensiamo ad esempio al proemio della lettura sulle Clementine del già ricordato Simone da Bolzano. È un'opera felicemente riesumata da Maffei, questa, che era del tutto, era ritenuta perduta, insomma, che ha curato anche l'edizione di questo proemio. Molto opportunamente, sempre Maffei ha mostrato la novità di una trattazione specifica in questo proemio su dottori e studenti. C'è proprio un trattatello, praticamente, su dottori e studenti, destinata poi ad essere saccheggiata dagli altri autori, tipo Bellmer alla fine del 300 e il Caccialupi nel 400. E di essa, infatti, questa trattazione sembra mostrare che qualcosa va cambiando e che la stessa corporazione universitaria deve serrare i ranghi. Ma se poi si entra nella trama del testo, a partire dalle fonti e dalla stretta dipendenza dei testi normativi, che sono poi soprattutto quelli canonistici ovviamente, L'apertura di Simone da Bolzano sembra perdersi e si ripiomba in un discorso che è fatto all'interno e per l'interno della corporazione dei giuristi, come quando si dedica tanta attenzione ai problemi delle precedenze tra le diverse categorie di dottori, e in particolare se abbia maggiore dignità il canonista ovvero il civilista, con l'ovvia conclusione a favore del canonista, un canonista che parla. Comunque, per ritornare al Dalegnano, non è dubbio che le altre sue opere siano senz'altro tradizionali, come quelle di tanti altri giuristi, autori di questi anni, scrittori in questi anni, che vivono come in due mondi, quello della formazione e degli interessi umanistici e quello della scuola o della pratica giuridica che li conduce a opere di impianto tradizionale. Abbiamo già fatto vari nomi, ma è facile aggiungerne altri. Pensiamo ad esempio a quel personaggio sul quale Garin vorrebbe che si facesse un lavoro, Lorenzo Ridolfi, che, amico del Salutati, ben noto agli storici anche così della politica fiorentina tra 300 e 400, che ha interessi filosofici di tipo nuovo proprio, e che è stato studiato solo marginalmente. Naturalmente c'è nei lavori di Martinez, perché naturalmente non poteva non esserci, insomma, essendo un personaggio così grosso, ma rimane sempre molto evanescente, insomma. E c'è poi una cosa specifica su un suo consilium de usura che dobbiamo a Martino, uno storico siciliano. E da Firenze a Padova basta il nome di Francesco Zabarella, morto nel 1417, da ricordarsi per canonista, giurista canonista, da ricordarsi per gli interessi classici e letterari, per le orazioni, per la parte avuta nelle intricate vicende successorie del Petrarca e soprattutto per aver instaurato un clima di congiunzione tra lettere e diritto che a Padova avrà fortuna, mi pare. Il 300 poi si può chiudere con Coluccio Salutati. Il futuro cancelliere, che è stato seguito ad esempio dal Witt in provincia, notaio e riformatore di statuti comunali. Il suo De nobilitate legum et medicinae del 1399 scioglie un inno alle leggi e alla sua scienza, come in una lettera a Bernardo di Pietro d'Amoglio in cui si rallegrava per la sua opzione a favore degli studi giuridici, perché memento iuris civilis scientiam principaliter ad Republicam pertinere, ed è quanto ritorna poi nei tedeschi molto nel Cinquecento, insomma, questa esortazione a studiare le leggi perché sono cose che attengono alla comunità e così via, che bene si inserisce poi in quella sua concezione dell'umanesimo civile delineata da Baron. Mi sembra che sia perfettamente in linea, insomma, con questa sua esaltazione. La virtù, dice Coluccio, può essere coltivata solo in uno stato retto dal diritto, non sotto la tirannia. Qui sappiamo tutti la parte che hanno avuto queste affermazioni in funzione antiviscontea. Ma non è tutto, perché l'anziano cancelliere si impegna in una difesa della stessa scienza giuridica più tradizionale, e non solo per motivi di campanile. Grandi sono non soltanto i suoi Accursio, Dino del Mugello, Giovanni d'Andrea, ma lo stesso Bartolo, del resto tanto importante per il suo De Tiranno, vi diviene uno scrittore ampio e lodevole, dove la cosa più notevole è proprio la obliterazione totale e volontaria, direi, delle rampogne di quel Petrarca che era il suo vero maestro, il vero maestro di Coluccio. È una lezione la sua che ritornerà costantemente nel 400 fiorentino. Vero che il Traversari e il Bruni si esprimono contro lo studio del diritto, ma soltanto per esaltare maggiormente gli studia humanitatis. Anzi, ritorna costantemente nel Bruni della Laudatio, ad esempio, edita dal Baron, ma anche presso il suo allievo Buonaccorso da Montemagno, docente di diritto a Firenze, e del quale ci sono conservati consiglia, proprio consulenze giuridiche, autore di quel diffuso De nobilitate che ha tanta importanza in Francia e in Inghilterra anche, c'è la coscienza della necessità del diritto per assicurare la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini. Che dire poi per il 400 di Carlo Marsuppini, che ebbe anche una formazione giuridica, fu iscritto all'arte di giudice dei notai, sembra avere impartito precisi insegnamenti giuridici, metodologici, nel corso delle sue lezioni di retorica, poesia e filosofia morale. Qual è la prova? La prova è che si riporta esplicitamente a Carlo, all'insegnamento di Carlo, un giurista, un certo Giovanni d'Arezzo, che il Chiappelli voleva riconoscere in un Forteguerri, che è possibile sia un Forteguerri. Questo Giovanni d'Arezzo scrive poco dopo la morte di Carlo Marsuppini. Carlo, egli dice in un'orazione che ha evidenti accenti valliani, insomma, all'Aveggio e alla Valla, e contiene un attacco spietato contro i giuristi medievali, Carlo voleva restaurare il giusto apprendimento del diritto, facendo a meno dei commentari medievali e secondo i dettami di Giustiniano. Né a questo punto può più stupire che nei vari dialoghi sulle arti nel corso del Quattrocento, il Bruni, proprio il Bruni e il Marsuppini, ritornino come interlocutori a sostegno del diritto. Sono quei dialoghi che ad esempio ha evito e tradotto Garay. Per tornare al 300, Avignone e la Francia meridionale, Napoli, Bologna ed altri centri minori dell'Italia settentrionale, infine Firenze. Questi i centri, tutti in un modo o nell'altro ruotanti nell'orbita del Petrarca e del Boccaccio, nei quali occorrerà seguire più analiticamente il rapporto umanesimo-diritto e l'emergere di una nuova sensibilità nello studio del secondo. A parte le polemiche contro lo studio scolastico del diritto, diretta a rivendicare un nuovo posto per gli studi umanistici, si può pertanto dire che in generale i rapporti tra giuristi e umanisti sono intensi nel 300 e i primi si aprono in molti casi alla nuova cultura che si compendia nella Renovatio petrarchesca. Ma se la congiunzione tra questi gruppi di intellettuali c'è stata, al di là degli spunti polemici accennati e alla eterna riprovazione per la venalità degli avvocati e così via, quali frutti ha dato? Si esauriscono in quegli elementari elenchi di giuristi romani o negli primi abbozzi di storia della letteratura giuridica medievale o c'è stato qualcosa di più? Qualcosa di più in effetti c'è stato e riguarda proprio la restaurazione filologica del testo più importante che era la base della scienza giuridica medievale, ossia il Digesto. Il venerato manoscritto in unciale del secolo VI, conservato a Pisa, quantomeno dai primi anni del 1100, non fu oggetto di inchieste soltanto dai glossatori bolognesi. Per il 300 si sa di una consultazione effettuata su incarico di Bartolo e Francesco Tigrini da Pisa, quando erano docenti a Perugia, che quindi dovrebbe essere avvenuta intorno al 1350, direi, e forse in opposizione a Baldo, cosa non indifferente, come si vede. Ma non è l'unico esempio trecentesco. Che si potessero risolvere problemi interpretativi dovuti ad errori o oscurità del testo, ricorrendo alla lettera pisana, è la cosiddetta lettera pisana, questo Digesto che là veniva conservato, è opinione che dovette diffondersi rapidamente nel clima dell'umanesimo trecentesco, con l'informazione sulla vetustà dei codici. Del codice. Oddio, sono due parti. Nel 1358, a distanza di poco più di un mese, fu consultato due volte, prima da Giovannolo di Guido Mandello e poi da Agapito Colonna, che Villanovic ha indicato come amici del Petrarca. Ma non era finita qui. Le ricerche recenti del Pertusi sul posto da assegnare al calabrese Leonzio Pilato per la nascita dell'interesse per la poesia greca, nell'ambito del movimento umanistico e segnatamente per Omero, hanno consentito al Di Benedetto, indipendentemente dalla campana, la felicissima identificazione della grafia di Leonzio nei fogli aggiunti ai due volumi della lettera divenuta florentina poi nel 1411, fogli in cui c'è una trascrizione, traduzione dei passi greci contenuti nel Digesto. Fogli dei quali lo stesso Di Benedetto ha dato un accuratissimo studio filologico, opinando anche, assai fondatamente, data la solennità con cui il manoscritto veniva conservato nel Palazzo degli Anziani, che lo stesso governo di Pisa, della città, autorizzasse lo studio del manoscritto e che avvenisse intorno al 1360 dietro stimolo di Baldo degli Ubaldi, allora docente a Firenze. E io aggiungerei nella Firenze di Lapoli Castiglioni. Ora, l'importante scoperta leontea ci avvia sulla strada del quesito più importante che si è venuto impostando. Se tanto stretti sono i contatti tra giuristi e primi umanisti nel corso del secolo, e sono più stretti di quanto si immaginasse, e sono anche tutto considerato buoni questi rapporti, perché, salvo alcuni isolati spunti, il 300 si chiude senza un rinnovamento metodologico della scienza giuridica. Perché la scienza giuridica rimane gotica, per ricordare di nuovo i termini del Billanovic? Qualche ipotesi bisogna pur azzardarla, almeno qui preliminare, poi si torna infine su questo problema. Il fatto è, mi pare, che una renovatio la scienza giuridica l'aveva conosciuta già, tra il 2 e il 300, grazie al magistero orleanese di Jacques de Révigny e Pierre de Bertèche e di Guillaume de Cune a Tolosa. Il loro metodo, subito trasferito in Italia da Cino da Pistoia e da tanti altri, aveva trovato immediata diffusione nei decenni danteschi, proprio mentre stava per farsi strada il movimento umanistico. Come è stato provato, Révigny fu certamente attivo nella scuola domenicana di Orléans. È un'altra cosa che dobbiamo a Maffei, questa rilevazione, e assai verosimilmente fu dapprima magister in teologia. Comunque sia, è certo che con quei personaggi i metodi e i procedimenti dialettici perfezionati nel 200 entrano massicciamente nella scienza giuridica, condizionando anche il futuro della sua filologia. Perché con la seconda metà del 200, proprio quando s'accentua il legame dei giuristi con i problemi del presente e con il potere politico, pensiamo ad esempio ad un Francesco d'Accursio che è consigliere del re d'Inghilterra, non so, il Malombra che è consigliere della Repubblica Veneta, il Belviso consigliere di Carlo d'Angiò, tanto per far qualche nome. Nella seconda metà del 200 cambia, in conseguenza di questo rinnovamento metodologico, cambia l'approccio al testo, nel senso che sulla attività scientifica rappresentata dalla glossa e compendiata nella glossa accursiana nel primo 200, un'attività quindi necessariamente aderente al dettato normativo, per quanto grandi e geniali potessero essere i glossatori nella ricostruzione sistematica, nei rinvii da una parte all'altra e così via, a quella lettura dei glossatori subentra una lettura, quella attuata principalmente attraverso il commento. Per il commento, il testo normativo rimane soltanto un punto di partenza, o almeno lo diviene più di prima, soltanto un punto di partenza, per un'elaborazione quanto mai creativa, appunto grazie alle tecniche dialettiche. Quel che importa ora non è più un primo approccio al testo, a volte anche soltanto lessicale, come avveniva nei glossatori, no? La glossa era semplicemente la spiegazione di una parola del latino classico che il medievale non poteva capire, e così il glossatore poneva la spiegazione, no? Qui non si tratta più di un primo approccio al testo, quale attuato dai glossatori, ma per i commentatori importa spiccare il volo dal testo nell'esaminare dialetticamente il complesso delle questioni che i testi hanno stimolato. Sicché il centro dell'attenzione, questo è un punto decisivo, credo, finisce per sbilanciarsi dal testo ai testi, cioè dal testo normativo con glossa accursiana ai commenti, che senza riprodurre il testo normativo, cosa già sintomatica, vi sono stati eretti intorno. È dai commenti che si parte per affrontare con ulteriori approfondimenti dialettici le fattispecie concrete che la realtà di un mondo ancora in forte espansione, come quello del secondo 200, e con suoi problemi specifici, presentava spesso in modo ben diverso dal modello giustinianino. Cino, ad esempio, parla, Cino da Pistoia, parla di miserum refugium glossarum, quasi ad indicare la ristrettezza dell'abito che quella avevano imposto al pensiero dialettico. Sicché nella prima metà del Trecento, grosso modo, i passi decisivi sono compiuti. È con questo metodo che i commentatori riescono a modellare i testi antichi sul presente e a dare una norma generale agli infiniti rapporti giuridici che la complessa realtà istituzionale, commerciale, agraria, feudale ed ecclesiastica del tempo proponeva. Che poi il linguaggio di questo momento intensamente creativo della scienza giuridica fosse quello scolastico ormai messo definitivamente a punto nelle scuole, certamente non stupisce. Il movimento umanistico, le grandi scoperte o riscoperte di classici, sono arrivate troppo tardi per sconvolgere un linguaggio tecnico, altamente specializzato e facilmente recepibile a livello europeo, secondo le esigenze in particolare della Chiesa, ma non soltanto della Chiesa. Le stesse ultime compilazioni canonistiche, destinate ad avere applicazione per tutta la cristianità, dal Liber Sextus di Bonifacio VIII alle Clementine del 1317, sono forgiate in quel linguaggio curiale e scolastico insieme, che è lo stesso linguaggio, cioè delle compilazioni precedenti, e soprattutto della copiosa letteratura che da quelle germogliò. Perciò in pochi decenni, nel primo Trecento, il momento più creativo del Medioevo dal punto di vista normativo, compilazioni canonistiche, e forse anche dottrinale, pensiamo ai vari Bartoli, Giovanni d'Andrea e così via, si consuma. A metà Trecento i giochi sono in gran parte fatti. Che in queste circostanze si dovesse ricorrere in ipotesi circoscritte e circostanziate, a rivedere nella loro verità filologica i passi che avevano dato l'avvio ad una costruzione dottrinale tanto imponente, non è contraddittorio con quanto abbiamo detto. E probabilmente il clima di renovazio umanistica favorì quel ritorno eccezionale alle fonti, da quello di Bartolo a quello di Leonzio, senza dubbio provocato da giuristi, quello di Leonzio. Ma è sommamente significativo che mentre giuristi ed umanisti cominciavano ad esempio a fare primi rozzi abbozzi di storia giuridica, il mondo del diritto, anche laddove fortemente collegato con quello umanistico, proseguisse per la sua strada, impiegando il rozzo latino di stampo ecclesiastico e scolastico, incurante più o meno, vedi però gli accenti di Luca da Penna e Giovanni da Legnano, incuranti degli attacchi umanisti. E fallisce anche l'esperimento di Leonzio. Verissimo che i passi greci del Digesto erano stati tradotti malamente dal barbaro Uguccione. Verissimo anche che Leonzio talvolta sa persino emendare acutamente la lettera pisana, come ha dimostrato Di Benedetto. Ma, modesto latinista qual era, i risultati delle sue traduzioni sono tutt'altro che edificanti. Di Benedetto ci dice: il rimedio era peggiore del male. Non è un caso, quindi, che l'esperienza di Leonzio sia caduta e sia rimasta oscura fino ai nostri giorni. Inutile chiedersi invece per ora quali effetti avrebbe potuto produrre la diffusione di un testo emendato e comprensibile per i nostri scolastici. Ora io passerei al 400, ma non so, per ora sembra, è tutto chiaro, o almeno posso proseguire? Ora, il secolo d'oro dell'umanesimo presenta una localizzazione, come noto, assai più varia e soprattutto una ricchezza di risultati assai maggiore che il 300, questo è ovvio. Tuttavia, per il nostro compito attuale, basterà aggiungere centri come Padova, Pavia, Siena, Roma, Perugia invece sembra destinata a non avere grande rilievo, anche se il della cornea, corneus in latino, ivi operante diventerà un nostro etatis papinianus nelle parole di un ficino, e Tindaro Alfani vi scrive un tractatus de testibus in forma dialogica, del quale ha sottolineato la singolarità al Dionisotti. Tindaro degli Alfani, in cui è consapevole di battere una via nuova, almeno dal punto di vista delle forme letterarie, per i giuristi. In complesso, tuttavia, l'opera vale soltanto ad attestare le capacità espansive dell'affermato umanesimo sul piano delle forme letterarie. Per il resto è un'opera ancora gotica, insomma. Per Padova possiamo ora utilizzare il complesso di studi nati intorno, da un lato, a Giuseppe Villanovic, dall'altro l'Istituto di Storia dell'Università di Padova, che mi sembra in particolare con la monografia del Sottili su Pietro del Monte, documentare, di cui credo abbia parlato in questi giorni anche, documentare efficacemente i legami tra artisti, umanisti e giuristi e tra italiani e tedeschi, svoltisi senza le rotture che avvengono contemporaneamente a Pavia. Riferisco naturalmente all'episodio del Valle. I nomi sono tanti. Basterà ricordare, oltre al Del Monte, che con il già defunto Zabarella ha tuttavia una posizione chiave, i vari Prosdocimo dei Conti, Prosdocimo Conti, Francesco Capodilista. Qui medicina e diritto si aprono alla retorica e all'umanesimo. Qui il passaggio dagli studi filosofici ed umanistici a quelli tecnici, come appunto quelli giuridici, vi appare naturale, dettato da ragioni di pubblica e privata utilità, come si dice in una di quelle orazioni pubblicate da Sottili, con uno sviluppo armonico che doveva essere molto gradito da parte dell'aristocrazia veneziana. Le orazioni di giuristi così si mescolano nelle sillogi alle opere umanistiche o ad operette come De Insignis di Bartolo, tanto importante per la vicenda del Val e per il dibattito sulla nobiltà. E a Padova la lode e la santità del diritto divengono dei topoi per tutti, insomma. Quanto però al rinnovamento degli studi giuridici, al rinnovamento metodologico reale, non sembra possa concludersi in senso positivo. Nonostante la presenza, ad esempio, di un Fulgosio che si prendeva gioco dell'affermazione di un collega secondo il quale volo pro me potius glossatorem quam textum, che dà un'idea espressiva dell'allontanamento dai testi giuridici, dalle fonti originarie. È quello stesso Fulgosio che è destinatario di versi, ad esempio, da parte del Panormite. Il San Biagi poi, nel secondo Quattrocento, definisce tutto un ambiente, opere del tutto tradizionali, dalle quali emerge soltanto il ricordo, perché l'opera parrebbe perduta, di un De Studio Legale ad Ipiscendo, ancora utilizzato per il suo elenco di giuristi medievali, soprattutto padovani, da docenti poi del Cinquecento, Mantova, Benavides, Panciroli e così via. Né vale la pena di soffermarsi troppo sul De Modo Studendi di Giovanni Jacopo Cane del 1476, se non per ricordare un'operetta modesta che ha il solo merito di una forma avvicinabile a quella umanistica. Possiamo attrarre intorno a questo ambito culturale quello di Ferrara, ove il medico Domenico Bianchelli, lettore di medicina nel 67, con una disputa dedicata a Borso d'Este, torna sul tema della prestanzia tra filosofia e giurisprudenza, ribadendo la mutevolezza delle leggi e pertanto la non scientificità della sua scienza, secondo un ideale aristotelico, rileva Garin, che valorizzerebbe il sapere anziché il fare. La disputa è emersa nel corso di ricerche del Pagallo, che ha anche individuato quella dell'eremitano teologo Giovanni da Imola su medicina e diritto. Purtroppo il Pagallo non ha pubblicato i testi, ha dato indicazione di questi testi e quindi è difficile vedere fino a che punto in queste dispute ci siano dei passi per noi significativi. Bisognerebbe, insomma, vedersi i testi originali. Insomma. In questa connessione poi parlando di Padova, soprattutto viene naturale ricordare i collegamenti, l'importanza dei collegamenti con i tedeschi, insomma, quindi ricordare Padova e Pavia anche, personaggi come Iodocus di Erfurt, l'autore di un vocabularium alla metà del 400, che utilizza in gran parte questi giuristi aperti all'umanesimo pavese, insomma, operanti a Pavia, o personaggi come Albrecht von Haib, per la sua Margherita, che ha anche orazioni di giuristi, un altro personaggio operante in Italia, insomma. Poi si può ricordare anche Sebastian Brandt, perché la sua Expositio Titulorum del Corpus Iuris. Comunque, insomma, questi sono personaggi che rimangono, cioè che sono importanti per la diffusione di determinati stimoli in Germania, ma che in Italia hanno una scarsa importanza, insomma, non sono importanti come diffusori, ecco, più che altro, o per averci conservato molte opere, molte letture, ad esempio di giuristi italiani, portandole altrove, insomma, e salvandole dalla distruzione, dato che le opere giuridiche hanno avuto una sorte poco felice i manoscritti giuridici. Altro discorso invece verrebbe fare per i giuristi italiani che hanno insegnato nelle università tedesche della metà del 400. Ad esempio, non so, vorrei ricordare quel Pietro Tomai da Ravenna, ecco, che anche quello è un personaggio che andrebbe un po' riesumato, insomma, probabilmente. Comunque, per essere brevi, torniamo, per cercare di essere brevi, torniamo a Pavia. Ora, Pavia, probabilmente abbiamo fortunatamente un cultore specifico di questi giuristi umanisti, che è Speroni qui presente, quindi io non mi voglio diffondere troppo, insomma, ha già mostrato in un suo articolo su Pietro Besozzi le caratteristiche della scuola pavese dal Castiglioni al Maino. Fastidio a livello accademico per le comunes opiniones, con tentativo di ritorno al dettato, al testo normativo originario, un accentuarsi delle argomentazioni grammaticali, stretta integrazione infine tra alcuni giuristi e umanisti di corte. Abbiamo dei personaggi che sono Guarnerio Castiglioni, tutti questi personaggi qua, che sono strettamente legati alla corte viscontina, che ne sono ambasciatori, consiglieri segreti e così via. Si vedrà che questi caratteri usciranno confermati anche dallo studio su Catone Sacco che Speroni ci promette, e ora che ha ricostruito il significato umanistico del De Verborum e significazione del Vegio. Sul Vegio e il Sacco, del resto, sono annunciati anche contributi di Sottili, quindi veramente possiamo dire che per l'ambiente pavese del primo 400 siamo abbastanza coperti, mi sembra, ma è un'eccezione. Aperture nuove poi qui a Pavia si riscontrano in giuristi anche più tradizionali. Pensiamo ad esempio a quel Martino Garatti di cui si è occupato la Rondinini Soldi. Ecco, quello è un giurista tradizionale, però anche lì ci sono delle aperture, ci sono degli excursus con storia della magistratura romana, un tentativo di comparazione con quelle viscontee e così via. In altri minori, ad esempio Guarnerio Castiglioni è il dedicatario del Grammaticum Libri Duo del Decembrio, e sono tutti personaggi che non possono intendersi se non si richiama quel clima antiscolastico che a Pavia troviamo animato da personaggi come il Valla, naturalmente, il Decembrio, il Vegio stesso. Ma su questi punti, insomma, ha accennato Villano ieri, ci sono lavori recenti, Camporeale, Fois, di Napoli, insomma, sono cose largamente note e le trascurerei. I termini formali dell'attacco umanistico o di ambienti giuridici strettamente collegati con quello umanistico sono noti. È ora necessario e indifferibile cercare invece di capire fino a che punto, dietro al richiamo ad fontes, non sia rintracciabile una politica del diritto e della sua scienza, filo principesca, per così dire, comunque una politica del diritto antifeudale, in senso lato, cioè contro gli ordini e le città privilegiate. Non dimentichiamo, e mi sembra invece che sia stato dimenticato in questi vari discorsi, che siamo nel clima che sboccherà nel decreto sul maggior magistrato, decreto Visconteo, del 1441, studiato ora da Ugo Petronio e che ha una grossa importanza nella storia feudale lombarda. Fino a che punto è un caso che la scuola padovana e pavese siano orientate in sensi diversi, in sensi divergenti, che là ci sia questo accordo, questa armonia e qui invece ci siano dei giuristi legati alla corte che assumono queste posizioni di rottura, diciamo. Fino a che punto nei giuristi pavesi c'è la risposta ad una domanda che veniva dai centri del potere burocratico e politico? Queste sono domande che lancio e poi ci torneremo sopra. Dopo questi grandi centri, ecco un altro minore ma anche significativo. La Siena del 400. Siena del 400 che non si esaurisce certo nel Piccolomini. Già studente di diritto, deluso visitatore, come ha ricordato nel suo studio specifico Guido Kisch, di Giovanni da Imola, che era un venerato giurista del tempo, il Piccolomini detrattore del diritto in termini direi petrarcheschi, cioè a favore delle nuove discipline umanistiche. Ne si esaurisce alla Siena del 400 con quel suo amico, il noto canonista Mariano Socini, buon conoscitore delle umane lettere e insieme giurista tradizionale, come del resto il Caccialupi, il cui De modo studendi del 1467, che Dionisotti forse troppo generosamente ritiene nuovo per la sua rassegna dei giuristi precedenti, ma che ha senza dubbio inquadrato acutamente nell'ambito degli interventi in cui si celebra, dice Dionisotti, la Costituzione e l'orgoglio di una casta. Come ad esempio lo ha riallacciato al De prestantia virorum suievi di Benedetto Accolti, il noto umanista, giurista, formalmente giurista, e cancelliere fiorentino. Vi dirò poi perché formalmente giurista. Un po' come Marsuppini, iscritto all'arte, diciamo, dei giudici e dei notari. Ma ormai va aggiunto che l'intento celebrativo di trattati come quello del Caccialupi non è mai disgiunto dalla evidente funzione pratica di questi inventari di giuristi, utili per navigare nel vasto pelago della communis opinio dottorale. Né mi meraviglierei troppo, come sembra fare Dionisotti, per la citazione della lettera che ormai era diventata fiorentina, no? E di cui parlavamo prima, per quella citazione della lettera che si trova nel Caccialupi. Le consultazioni di quel digesto del VI secolo sono state assai di più di quel che si ritenesse, e non solo per il 300. Indubbiamente, dal repertorio che si legge in Maffei, va tolta quella attribuita al Salutati Dominici intorno al 1400, questo è stato precisato da Di Benedetto. Non quella di Niccolò de' Tedeschi, grosso canonista insegnante a Siena e a Firenze, che dice comunque di aver soltanto visto le pandette fiorentine, non dice di averle utilizzate concretamente. Sono tutti dati su questi personaggi, c'è ora una biografia che Paolo Nardi ha dedicato a Mariano Socini, insomma, e si possono trarre varie notizie sui giuristi operanti in Toscana nel primo 300, nel primo, no, diciamo alla metà del 400. Direi che la consultazione anche della fiorentina che è stata attribuita al Tartagni, che era un giurista bolognese maestro del Bolognini, che è stato in rapporto con il Poliziano, come sapete, insomma, per la consultazione delle pandette, la consultazione del Tartagni, direi, sono andato un po' a ricontrollare quei testi, mi sembra che si possa eliminare. È una consultazione che avrebbe un po' avrebbe richiesto una revisione dell'impostazione del rapporto Bolognini-Poliziano, perché naturalmente noi avremmo trovato un personaggio a Bologna interessato alle pandette fiorentine a metà del 400. Ecco, io sono andato a rivedere un po' i passi, però mi sembra che si dovrebbe escludere. Cioè, mi sembra che il passo in cui il Tartagni parla delle pandette fiorentine dipenda dalla glossa prussiana. Quindi, insomma, era lui non dovrebbe essersi interessato direttamente delle pandette fiorentine. Comunque, all'inventario che si legge in Maffei, che si è fidato troppo del Girard, purtroppo, anche per i manoscritti dei Basilici e delle Novelle, va invece aggiunta la consultazione effettuata da Ciriaco d'Ancona, il noto riscopritore, tra l'altro, di operette giuridiche dell'antichità nello stesso giro d'anni, e poi soprattutto quella per noi più interessante, di un certo Antonio Minucci o Mincucci da Pratovecchio, che detto tra parentesi ha un passo che auspica una storia letteraria del diritto come quella che abbozzerà poi il Cacialupi. Ora, questo Mincucci, che è un personaggio del primo 400, è veramente trascurato ingiustamente. È un dedicatario, è il dedicatario del De Militia del Bruni. È un poeta, è uno studioso di greco, è un traduttore. Stimola allo studio del greco Francesco Accolti, altro emblematico giurista e umanista. È in rapporto col Traversare, col Bessarione, col Landino. Nel 1421 ha una disputa con un docente dello studio senese, non dice chi fosse, nella quale egli esibisce manoscritti tanto antichi da essere privi di glossa. Alla fine si ricorre alla lettera florentina, che egli aveva già consultato quando era a Pisa. Naturalmente la lettera florentina gli dà ragione. La lezione di quel passo era come aveva sostenuto il Mincucci. Ebbene, il Pratovecchio è lo stesso personaggio che s'accinge alla riedizione dei libri Feodorum su stimolo della cancelleria, direi, dell'imperatore Sigismondo, al fine anche di riportarvi i testi imperiali secondo il dettato genuino, servendosi di codici antichi. Ora, tanto impegno filologico, che pare infine premiato con l'autorizzazione da parte di Federico III alla sua pubblicazione, all'invio a Bologna e negli altri studi, non ha sortito praticamente effetti. È espressivo del problema centrale del rapporto diritto-umanesimo che col ripristino bene o male del testo e la necessaria ridistribuzione del materiale dei libri Feudorum si sia fatto un buco nell'acqua, come si dice. Un giurista vissuto a cavallo del 4 e 500, pur dotto e tanto sensibile, si dice, alle preoccupazioni umanistiche come Giason del Maino, il più grosso pavese intorno al 500, chiarirà esemplarmente le ragioni di questo fallimento, che coinvolge anche il tentativo del Barattieri, che diremo dopo. Renovare dictum librum esset confundere glossam utriusque iuris, sinotti, glosse, et utriusque censure doctores. Qui allegant illum librum secundum formam et ordinem quam habemus. Et ideo studia le università non recipiunt dictas renovationes. Lasciano cadere i testi pur approvati dall'imperatore. Ora il passo dice molto, non soltanto sui rapporti tra potere politico e centri di cultura ed intellettuali nel 400. Del resto anche il velleitario, mi si perdoni l'espressione, Massimiliano, tenterà poi inutilmente di inserire la nuova redazione dei libri Feudorum nel Corpus Iuris Civilis. Ancora un'edizione ben altrimenti robusta dei libri Feudorum, quella dovuta nel 500 francese al duttissimo Cuiaccio, non avrà successo, probabilmente per gli stessi motivi per cui erano caduti questi. Che però tutto ciò stia ad indicare che esistevano sollecitazioni per un intervento sul diritto feudale mi sembra indiscutibile. Infatti, una restaurazione analoga a quella del Mincucci viene completata nel 1441 e poi inviata con lettera ducale del 42 allo studio di Pavia dal ricordato Barattieri, che guarda caso opera proprio a Pavia. Sono gli anni del decreto sui feudi di Filippo Maria Visconti. È chiaro che tutto ciò andrebbe ristudiato in stretta relazione con altri contesti di storia istituzionale ed economico-sociale. Arrivati a questo punto siamo costretti a trascurare altri esempi analitici. A trascurare Roma e gli importanti studi storici che vi si svolsero, ma anche Napoli, per il quale centro si dovrà rinviare ancora la monografia di Domenico Maffei su Alessandro d'Alessandro, agli studi del De Frede, all'operetta di Antonio Maffei risalente al 1940. Non c'è bisogno di ritornare, direi, neppure sulla seconda centuria del Poliziano, illustrata in più occasioni dal Brandt, che ha dato anche notizia ora di postille polizianee nel manoscritto laurenziano della parafrasi di Teofilo. Né tantomeno mette conto tornare ancora su Bolognini, che ha meritato l'attenzione del Dionisotti e tanti dettagliati studi del Caprioli. Direi piuttosto che è necessario ampliare la gamma delle fonti da consultare. Ad esempio, le Protestationes de Justitia, per le quali il saggio di Emilio Santini lascia molte curiosità inappagate. Oppure le più ampie discussioni che ritornano nei lavori di Bruno Nardi e di Christeller sulle ragioni profonde del contrasto tra taluni umanisti e gli aristotelici, come contrasto tra discipline letterarie, compreso il diritto, sinottie, come discipline del probabile, e le discipline filosofiche, compresa la medicina, come scienze del necessario. Gli aggiornamenti su altri punti sono all'ordine del giorno e direi di trascurarli. Questo volevo ricordare una lettera dell'Egibus et Sacerdozio dell'umanista Ivani, ma insomma sono cose minori come queste della parafrasi Teofilo dell'Epitome Iuliani. Tutto questo serve per rilevare che col 400 continuano e si intensificano i rapporti tra giuristi e umanisti, e con ciò si finisce, mi pare, per rompere l'equilibrio. Cioè, cosa voglio dire? Che la bivalenza, che era prima un fatto personale, si trasferisce ora nel ceto stesso. Ora si crea la frattura stessa nell'ambito della scienza giuridica. Cioè, il Sacco a Pavia e quel Giovanni d'Arezzo di cui si è parlato per Firenze esprimono completamente questa rottura all'interno dei giuristi. Anche altri dati del resto depongono in questo senso. Si pensi ai tanti giuristi, almeno formalmente, che finiscono quasi per ripudiare il loro mestiere nel darsi alle discipline umanistiche. Pensate che Firenze è ricca di esempi in tal senso, anche senza scomodare Marsupini e Benedetto Accolti. Una cosa che mi ha fatto particolarmente impressione e che sottopongo anche alla vostra meditazione è che la Firenze del 400, il centro culturale del mondo, non ha dato un solo grande giurista. Non c'è un giurista fiorentino nel 400 che abbia lasciato opere, diciamo, di un qualsiasi rilievo. Anche quegli importanti statuti redatti nel 1415, gli statuti che poi saranno in vigore fino al 700 naturalmente, fino in epoca lorenese, quegli statuti sono stati redatti da stranieri: Paolo di Castro, Bartolomeo Volpi da Soncino, sono dei giuristi che insegnavano a Firenze e che non erano fiorentini, anche se naturalmente bisognerebbe cercare di vedere, cosa che non mi pare sia stata ancora fatta, vedere come questi statuti del 1415 si inseriscano nel clima culturale della Firenze del primo 400 e vedere in particolare se questi statuti del 1415, se per questi statuti ci sono state direttive di politica del diritto, diciamo, per usare un'espressione moderna, da parte degli umanisti civici, tra virgolette, alla Barone. Ora, il fatto che Firenze non abbia dato un solo giurista per il 400, giurista scrittore, è solo da attribuirsi da un lato all'impegno politico e dall'altro a quello umanistico che lasciava spazio ai fiorentini solo per qualche ripetizio scolastica e per molte redditizie, consulenze per il governo e per ricchi privati? Se pensi quanto ne dice ad esempio Alamanno Rinuccini sul costo delle consulenze dei giuristi, o quanto viene fuori naturalmente dai lavori di Martinez, insomma. Può apparire strano, ma è qui uno degli aspetti principali del problema per noi più importanti. Perché ha avuto così scarsi effetti o è mancato l'incontro tra umanesimo e diritto? Dire che mancavano le condizioni naturalmente non soddisfa nessuno. Che anzi mi pare chiaro, da quanto si è detto, che quelle condizioni erano particolarmente felici. L'incontro tra diritto e filologia si era verificato del resto già ai tempi di Irnerio ed era stato ben fruttuoso. Nel 1100, quando c'era bisogno di un intervento filologico, l'intervento c'era stato. Irnerio, magister in artibus, prende e restaura i testi giustinianesi. Quindi, quando c'era una sollecitazione, questo è stato fatto anche nel 1100. Bisognerà quindi cercare di essere più precisi. Intanto si può fare riferimento alla eterogeneità dei metodi di lavoro e quindi alle profonde divergenze nelle forme di produzione letteraria. Scolastici per i giuristi con un lessico specialistico ormai consolidato da secoli e di contro il metodo filologico, critico, antiscolastico degli umanisti che, maturato a contatto con i monumenti dell'antichità, restaurati filologicamente, comporta il ripudio del linguaggio dei linguaggi tecnici dell'apparato scientifico medievale gotico. In secondo luogo, direi che un certo peso possa attribuirsi alla diversità della loro posizione dinanzi alle fonti. Le fonti sono indeterminate nella loro vastità per l'umanista, che, salvo ad esempio quegli esclusivi amori per Cicerone, può derivare con larghezza di discrezionalità dal patrimonio culturale tramandato. È come noto non solo patrimonio dell'antichità ma anche del Medioevo. Per cui ogni scoperta per l'umanista diventa occasione di arricchimento, di discussione, di polemica. In ogni caso, ogni scoperta diventa oggetto di appropriazione per ricavarne elementi utili alla costruzione della nuova cultura. Per il giurista o l'umanista che, essendo anche giurista, si volge ai testi giuridici, di regola questa libertà di recezione è in gran parte inesistente, perché grazie a quella fioritura dottrinale maturata a partire dal 1100 di cui si parlava, il corpus con cui ha a che fare il giurista si è cristallizzato entro confini precisi. Si è già detto che con la metà del 300 questo processo era già giunto in gran parte a compimento. I testi legislativi, tra virgolette, ormai sono quelli che sono. Gli apparati di glosse ordinarie, pure con la metà del 300, sono chiusi. Lo stesso corpo dottrinale che sui testi e sulle glosse si innesta ha ormai i suoi temi d'obbligo, i suoi procedimenti, insomma, i suoi confini. Non inganni la farragine e la irrefrenabile quantità della dottrina del 3-400. Dottrina sempre lamentata, non solo dagli umanisti, ma anche all'interno della scuola. Nei commentari di Bartolo e di pochi altri c'è ormai tutto, almeno per il pratico. Dai suoi repertori, il pratico risale rapidamente alla comunis opinio dei dottori sul punto che lo interessa. Certo, si potrà discutere in un sistema di questo genere se una opinione sia o meno obiter dicta, se è successiva e pertanto correttiva o abrogativa di una precedente, se è puntuale o meno, se il caso attuale è proprio quello delineato dall'autore considerato, ovvero anche se il passo è veramente di Bartolo, perché c'è un problema di filologia bartoliana nel 3-400. Perché naturalmente aveva una grossa importanza dire che un'opinione risaliva a un autore della autorità di Bartolo e invece ad un altro autore. Tutto questo è vero, ma le coordinate sono date e non si può sconfinare. La norma d'azione di diritto comune per gli operatori del diritto sta là, in quei commentari tanto disprezzati da taluni umanisti, non tutti, abbiamo visto salutati. In quei commentari che del resto devono la loro validità e vitalità alla idoneità delle soluzioni modello in essi proposte, a regolare sotto il profilo giuridico la tumultuosa evoluzione dei secoli dal XII al XIV. Ora, ciò non vuol dire certamente che quei commentari siano un codice normativo come quelli che oggi ci governano, che si trattasse semplicemente di applicare, sia per gli aspetti suscettibili di contestazione cui abbiamo accennato, sia perché ovviamente non tutto si blocca nella storia giuridica del paese nel corso del 3-400, sia infine perché la scuola, i frequentatissimi studi italiani, quell'insegnamento riproducono e perfezionano con i metodi scolastici di generazione in generazione, dando infatti un'impressione di continuità che in gran parte è reale, esiste questa continuità dottrinale, intendiamoci, ma che talvolta vale soltanto a simulare delle rotture, riflessi di precisi squilibri del mondo esterno, che pur ci furono. Pensiamo alle tempeste tra 3-400, alle tempeste che investirono il mondo ecclesiastico, e si constati la superiore tranquillità, almeno apparente, della dottrina canonistica. Ora, se questo è vero, se veramente c'è stata questa omologia tra la dottrina giuridica trecentesca, bartolista, gotica, che dir si voglia, e i bisogni delle istituzioni del tempo, e quindi degli uomini che facevano le istituzioni, che tenevano le istituzioni, come sembrano volere gli stessi storici degli istituti giuridici, è una nota, insomma, mi pare largamente diffusa, insomma, si può pensare, oltre che gli studi degli storici italiani, non so, ad Unterhuber, ad esempio, ecco, a quegli studi che fanno gli storici dell'economia e che mettono in rilievo come gli strumenti tecnici apprestati dai commentatori italiani, tanto disprezzati dagli umanisti, come la cambiale e così via, sono stati degli strumenti di eccezionale importanza, insomma, no? Ora, c'è quindi questa omologia, questa corrispondenza tra dottrina e bisogni delle istituzioni politico-sociali del tempo. Ma allora, che senso avevano le rampogne degli umanisti e dei giuristi a loro vicini? Certo, sarebbe a questo punto necessaria una puntuale ricostruzione delle singole pronunce, una loro lettura all'interno dell'opera del singolo umanista e della sua esperienza, globalmente intesa. Ma al di là degli utili risultati cui ricerche su specifici moventi individuali possono condurre, non sembra contestabile che le denunce umanistiche nel loro complesso e la correlativa loro attività nel campo del diritto tradiscano in generale, e qui c'è da scusarsi senz'altro per questa che è una semplificazione, indubbiamente una generalizzazione, tradiscono il disagio profondo di un intero ceto così di studiosi, di intellettuali. Disagio per un mondo che era ben diverso da quello pur drammatico che si leggeva nelle fonti dell'antichità, per un mondo di sapere sclerotico e istituzionalizzato, ove il prezzo per la libertà di culto delle umane lettere è costituito dal compromesso col potere costituito, civile o ecclesiastico che fosse, e quello ecclesiastico lasciava maggiore libertà di quello civile, intendiamoci. Disagio per una società profondamente stratificata, vedi il dibattito sulla nobiltà ad esempio, che viene contrapposta polemicamente all'armonioso e semplice mondo antico, pur se è stato osservato, la semplicità del mondo antico si risolveva nella dicotomia di liberi e schiavi. Sicché lo sfogo umanistico può nascere da motivi contingenti, quanti di loro hanno avuto a che fare con tribunali, lenti, avvocati venali, insomma, questo è una cosa di sempre. Può nascere dal risentimento per il permanere d'un sapere scolastico nelle università, per la rapida fortuna politica ed economica degli illetterati esponenti di quel mondo. Villano ci ricordava molto spiritosamente che i giuristi si danno agli studi, allo studio, pardon, non agli studi, e con la necessità di conquistare un nuovo posto anche accademico alle umane lettere. Ovvero ci può essere anche sconforto nel constatare che quei titoli accademici dei giuristi dovevano essere pur sempre conseguiti per non chiudersi determinate prospettive. Non sono certo eccezioni molto vistose quelle del poliziano, pensate il finissimo poliziano, dottore in diritto canonico, o un erbolao barbaro, dottore in utroco iure. C'era anche, al fondo di queste polemiche, una coscienza della separatezza della cultura giuridica, che ovviamente chi fosse umanista e giurista ad un tempo avvertiva con maggiore consapevolezza, come problema anche individuale, la sentiva come una dilacerazione interiore proprio, no? Mentre si voleva costruire una disciplina che potesse illuminare tutte le altre, la scienza giuridica rimaneva incomunicabile, indifferente alle scoperte umanistiche, e spesso ferma a proporre modelli di civitas, che erano quelli medievali, del comune retto da decurioni, tra i quali l'umanista non trovava posto in quanto tale. Qualche tentativo fu fatto di andare loro incontro. Gli umanisti non sapranno rifuggire neppure dal blandire questo o quel giurista con i più mirabolanti accenti, abbiamo ricordato il della Cogne, il Papinianus nostre etatis, purché mostrassero un minimo di disponibilità nei rapporti di tutti i giorni, se non anche negli scritti. La stessa attività umanistica nel campo del diritto è solo un aspetto di un'operosità ben più vasta, certo, ma doveva anche valere ad attestare la possibilità di un diverso sviluppo della scienza giuridica, oltre che la validità del proprio metodo e la fondazione della propria superiorità nell'assetto del sapere coevo. Mostrare che le fonti giuridiche dell'antichità non erano solo quelle su cui si era fino allora esercitato il pensiero giuridico, mostrare che le stesse fonti da cui questo aveva preso l'avvio andavano in realtà lette in altro modo, che avevano esse stesse una propria storia e che le fonti extragiuridiche potevano servire a lumeggiarla e quindi a cogliere il reale contenuto, facendo a meno delle mendosissime glosse, questo è il contenuto precipuo del ponte, diciamo, lanciato dagli umanisti ai giuristi. Gli episodi del Leonzio e del Mincucci, le consultazioni della Florentine, le emendazioni del Valla, i trattati sulle magistrature romane, non sto a diffondere, Basilza, Decembio, eccetera, eccetera, la collazione stessa del Poliziano e le velleità del Bolognini, davano corpo a quel ponte e dimostrano che quel ponte non fu lanciato nel vuoto. Eppure i risultati sono scarsi. Ripetiamo, un po' di citazioni classiche, qualche elementare excursus storico, gli uni e gli altri affogati come sempre nel mare magnum del corpus dottrinale consolidato, presto riassorbiti nella norma, accantonati a funzionare da aspetto decorativo, o per fini didattici, quasi ai patene bourgeois. Nelle scuole ci si poteva prendere qualche libertà. Discutere l'opinione di Bartolo, certo, la comune opinion, dimostrare l'errore dell'uno e dell'altro, dando mostra del proprio sapere e delle proprie capacità argomentative e anche filologiche, ma badando bene poi ad avvertire gli studenti che quelle erano licenze che ci si poteva permettere in scholis, in disputando, ma non in consulendo o in sentenziando, nella vita di tutti i giorni. I casi sono innumerevoli, è praticamente anche questo un topos, sia nella letteratura giuridica tradizionale che in quella più umanistica, e a me sembra un caso clamoroso costituito dai consigli ad Alciato. Se voi leggete i consigli dell'Alciato, che è il primo giurista umanista, eccetera, sono un grosso personaggio del primo Cinquecento, i consigli sono tipicamente gotici, potremmo dire. Ora, eppure, con ciò non si esaurisce il tema. L'insoddisfazione di taluni umanisti per il presente si manifesta talora in attacchi alla scienza giuridica contemporanea, che mirano in realtà a colpire gli stessi ordinamenti giuridici vigenti, nell'auspicio di un mondo governato dal diritto e dalla giustizia e in cui trovi attuazione un disegno superiore di civile convivenza grazie ad un nuovo ruolo dello Stato. Non è di tutti questa aspirazione, sia chiaro, ma è importante che il pensiero umanistico riuscisse a farla emergere. Don Luca da Penne si è già detto, ma è più significativo quanto si legge nella seconda Convivialis Diceptatio del Bracciolini. Sui particolari della Diceptatio non mi voglio fermare perché è stata esaminata già troppe volte. Qui importa rilevare, con la storicità del diritto che ne viene fuori, la diretta denuncia sulla pratica disapplicazione del diritto nella realtà di tutti i giorni, tema sul quale ritornerà poi Livani nel 1476. I diritti sono insegnati più che applicati, dirà Livani. Disapplicazione del diritto e la rilevazione della scarsa sfera di applicazione del diritto romano in Europa e a Firenze in particolare. Ciò premesso, è notato come vi è una sottovalutazione, probabilmente voluta, del ruolo del diritto romano canonico comune. Quanto mai rilevante è invece quanto segue. È l'osservazione del Bracciolini, secondo cui, ove la Repubblica Fiorentina ampliori imperio esse, raccogliesse le sue leggi in volume Romanorum More, abrogasse tutte le altre fonti e assoggettasse i suoi sudditi, i suoi cittadini, solo alle leggi proprie, senz'altro queste sarebbero migliori, superiori a quelle romane. Poche parole, ma contenuto ricchissimo. Auspicio di una dimensione principesca o comunque territorialmente più ampia per Firenze, venir meno del mito della perfezione della legge romana che era vivo ancora in quel Giovanni d'Arezzo, allievo del Marsuppini, rivendicazione completa della sovranità normativa dello Stato e con ciò apertura della prospettiva di superamento del sistema del diritto comune romano-canonico, poggiante, come sapete, su quelle due finzioni che, di poteri universali che nel 400 erano l'impero e il papato, e puntando invece su uno sforzo legislativo autonomo dello Stato in opposizione al diritto di formazione dottorale, al diritto delle università. Ora, di fronte a affermazioni come queste del Bracciolini, mi chiedo se sia un caso che pochi anni dopo, nel 1461, proprio Niccolò Tignosi, l'interlocutore della Diceptatio di Poggio, sostenga direttamente tesi omogenee con queste. Grazie ad uno studio del Rotondò, possiamo vedere dove quelle premesse potevano condurre, e i passi, francamente, sono per me di una lucidità sconcertante, più che quelli del poliziano, ricordati da Orestano. Mi spiace che non ci sia Billanovic, perché era forse interessante un po' misurarci su queste cose. Niccolò Tignosi dice: i giuristi devono essere solo interpreti, chiosatori della legge. Essi devono essere sottoposti al legislatore come gli artefici all'architetto. È la stessa condanna contro i sofisti che li travolge. Come Ficino egli afferma, prestantior est legum conditor quam sofista, e con ciò si assista ad un'affermazione del primato della politica e quindi anche della legislazione. Non solo, perché si delinea anche la figura del buon legislatore nelle pagine di Tignosi, che non è un raccoglitore di leggi trovate, forse è un'allusione a Giustiniano che aveva fatto questo qua acervo, ma il legislatore chi sa farne di nuove, perché di nuova regolamentazione abbisognano quei de novo emergunt. E il legislatore quindi deve scovare, investigare, attentamente vagliare le ragioni per preferire questa o quella disciplina normativa, da che le leggi devono non solo conservare la pace tra i cittadini e la Repubblica, ma procurarne un augmentum. La strada è con ciò individuata. Un potere politico consapevole del suo ruolo anche di legislatore e quindi di programmatore dello sviluppo sociale, che è poi quanto sembra intravedersi anche nell'eremita del Galateo, quell'acuto umanista condotto alla vita ritirata del puro studioso di fronte alla crisi presente del regno meridionale. Le leggi sono esaltate come inviolabili un tempo, ci dice il Galateo, sono ora scudo per i ladri, laccio per i poveri, pretesto per le recite avvocatesche, oscurate da commentari che sanno solo nascondere il vero. Di contro si esaltano le leggi opera dell'uomo, chiare ed intellegibili anche per la plebe. La complessità, stiamo per concludere, insomma, scusate la prolissità, la complessità e varietà delle consapevolezze e dei motivi quindi c'è, a prescindere dalla linearità degli attacchi alla lingua e all'autorità dei giuristi coevi, e quindi a prescindere dalla continuità dell'insoddisfazione umanistica. Ma se si scende dal generico, le alternative prospettate dagli umanisti e giuristi loro vicini variano col tempo e nello spazio. Dove c'è più armonica convivenza, come a Padova, la stessa polemica è attutita e il compromesso che regnerà per secoli nella Repubblica Veneta può spiegare almeno in parte questo clima. A Pavia c'è un incerto agitarsi, una iconoclastia che sembra collegarsi nei giuristi ai problemi che le nuove dimensioni che la dinastia vuol dare al suo stato creano, non da ultimo con l'ampliamento della sfera del diritto ducale regionale. Ma le ricorrenti crisi dinastiche non permettono il consolidarsi d'un potere politico che offra sbocchi concreti e chiari ai suoi giuristi. A Firenze la crisi dell'umanesimo civico si traduce in aspirazioni che sono le più moderne viste ex post, abbiamo visto Bracciolini, T-News, ma che rimangono solo tali e con scarsa diffusione o almeno con scarsa recezione. La crisi è testimoniata dal fatto che è sempre incentrandosi sul diritto romano, o almeno quasi sempre incentrandosi sul diritto romano, che si cercano soluzioni per i problemi del presente. E la sua fortuna riesce durevole per quel suo presentarsi nell'interpretazione medievale in modo ambiguo, diremmo, no? Il diritto romano che può essere strumento di operazioni di contenuto diverso. Ora può essere utilizzato in senso statalistico e antifeudale o antiautonomistico, anticomunale. Ora invece può essere interpretato come una garanzia per le città privilegiate e gli ordini privilegiati. L'idea che bastasse ripulire il dettato delle fonti normative è sempre vivissima, anche se non affermata esplicitamente, quasi che rimanesse al fondo di questa posizione un dubbio ineliminabile. Espressa con tanto rigore negli anni 50 dall'allievo del Marsuppini, quell'idea noi la ritroviamo, l'idea di dover ripulire le fonti romanistiche, noi la ritroviamo pur velata nel Poliziano, che non vedo poi tanto lontano dal Bolognini nel propugnare l'utilitas del proprio lavoro. Questa contrapposizione tra Bolognini e Poliziano è una cosa che torna in branca. La solerte operosità del Poliziano sul venerando di gesto fiorentino doveva sboccare in opere di restaurazione clamorose, per le quali furono interessati sia l'imperatore, tramite il Breisach, durante il suo passaggio fiorentino, sia Ludovico il Moro tramite Bernardo Ricci, come si è ricordato anche recentemente dalla Secchi Taruggi al Brandi. Voleva il Poliziano qualcosa di più che una restituzione della vis latine lingue che era in quei testi, oltre che ovviamente la protezione dei destinatari designati dai suoi lavori. La sua opera, precisa il Ricci scrivendo a Ludovico il Moro, sarebbe proprio cosa degna di uno principe, qual è vostra eccellenza. Et per tutti gli studi del mondo, in sempiterno il nome suo sarebbe vivo. Quale lode aver fatto, prosegue Ricci nella lettera, racconciare, cioè insomma ripulire, aggiustare, sì, quello che Giustiniano fece fare. Si noti però l'accento limitativo agli studi, alle università, e si capirà quanto si dovesse essere consapevoli che poco si sarebbe turbato l'assetto pratico del diritto vigente. Tanto più che già il Salamonio, negli ultimi anni del Quattrocento, negava che il manoscritto fiorentino fosse l'archetipo, come invece credeva il poliziano ancora. Ancora, è forse un caso che nei primi anni del Cinquecento da Roma e per volontà papale più volte si richiedessero i libri con le collazioni del poliziano. In realtà, si era messa in moto una corsa internazionale alla pubblicazione della lettera fiorentina, e Norimberga anche entrerà in questa corsa con l'edizione di Aloander. A Firenze, dopo il 94, si erano moltiplicate le consultazioni dopo la morte del poliziano, e non si voleva rimanere indietro in quell'opera di prestigio, ma è dubbio che si volesse far qualcosa di più che giovare a togliere qualche inutile dibattito all'interno della scienza giuridica, come poteva pensare il Bolognini e gli avvocati e docenti fiorentini che consultarono il codice. Ovvero che se ne volessero trarre degli spunti per gli studi sull'antichità, come faceva Crinito. Ovvero ancora, se ne volesse far qualcosa che permettesse di presentarsi come emuli di Giustiniano, come voleva fare sia Ludovico il Moro che Massimiliano, l'imperatore. Il Guicciardini vedrà lucidamente il vuoto di prospettive reali che stava dietro a tanti esperimenti. Guicciardini, tenete presente, aveva una formazione da giurista, oltre che da umanista. Come quando osserva in un passo dei ricordi, quanto si ingannano coloro che a ogni parola allegano i romani. Bisognerebbe avere una città condizionata come era la loro e poi governarsi secondo quello esempio, e il quale a chi ha le qualità disproporzionate, cioè le città del presente, è tanto disproporzionato, cioè non confacente, quanto sarebbe volere che uno asino facesse il corso di un cavallo. È quello che, con altre parole, quasi contemporaneamente diceva un giurista formatosi, un giurista di formazione umanista come era Bonifacio Amerbach, l'erede di Erasmo. Bonifacio Amerbach ha un orazio in difesa della giurisprudenza tradizionale illustrata da Guido Chisci. E anche lì dice, difendendo i giuristi tradizionali, rem juridicam tractareunt, non rhetoricem. Proprio queste parole. Due secoli più tardi, scusate questi salti temporali, Giovan Battista Vico, in un giudizio severo, che ha dell'illuministico, direi, e che comunque presuppone una nuova domanda nei confronti del legislatore, ammetterà i meriti umanistici per il progresso decisivo nella storia del diritto romano, ma si chiedeva, con una severa e implicita valutazione, se quegli umanisti avessero elaborato delle leggi nostris rebus publicis ab. Queste le parole del Vico. E siamo al tema centrale e conclusivo. Quel diritto romano che poteva essere finalmente ricostruito correttamente grazie alle tecniche filologiche e alle conoscenze linguistiche degli umanisti non era un'alternativa valida per l'Italia che andava reclinando. Culturalmente no, ma politicamente, economicamente e socialmente sì. Né era un'alternativa credibile quella di una nuova autonoma legislazione statale, come vediamo propugnata nel Bracciolini e nel Tignoso. Mancavano un potere politico e forze sociali disposte a giocare la carta del rinnovamento e a dare quindi un senso preciso alle tante brillanti ma senza orientamento, ricerche di un ceto intellettuale allora all'avanguardia. Da questo tragico gap, potremmo dire, no? Tra l'alto grado di sviluppo delle energie culturali e l'inceppato sviluppo a livello politico-istituzionale ed economico-sociale deriva la crisi di quegli uomini di cultura, la loro mancanza di prospettive e il loro rinchiudersi nell'antiquaria o nella poesia. Da ciò, in definitiva, direi, il fallimento dell'incontro di diritto e umanismo. E quindi sia la mancata nascita di un metodo critico d'analisi del fenomeno giuridico, sia la persistenza del medievale diritto, gotico diritto, romano canonico. Quel diritto che era il più adeguato a quel mondo politico privo di spinta e di progressi innovativi, adagiato sulla conservazione e abituato a far politica alla giornata. Mi dispiace di essere stato prima così di, lungo. No, sono mortificato. Io credo che dobbiamo ringraziare il professor Ascheri per due aspetti della sua relazione che inevitabilmente doveva essere ampia come è stata, perché ci ha dato da una parte, diciamo pure, gli elementi informativi di cui avevamo bisogno. La maggior parte di noi non sono giuristi, e anche se parecchi dei nomi che abbiamo ascoltato ci erano familiari, vederli ricollocati nel tempo e nello spazio credo sia stato utile per quelli che di noi ne avevano bisogno. Ma direi che l'apporto più importante della relazione del professor Ascheri ci viene da due fatti diversi e concomitanti. Da una parte, l'avere ripreso e rielaborato la produzione degli anni del libro, degli anni che sono intercorsi dal volume del professor Maffei ad oggi. Voi vi sarete accorti che più volte si riferiva ad articoli recenti e recentissimi, in taluni casi ad articoli in preparazione e in, diremmo noi oggi, in fabbricazione presso i vari studiosi. Quindi indicazioni informative sul piano delle persone di cui si parlava, indicazione della continua, progressiva, avanzata degli studi su questo campo. Avanzata di cui, adesso parlo a titolo unicamente personale, di cui qualche volta il povero disgraziato, come è chi vi parla, che si interessa di storia generale del Medioevo, ahimè, non sempre può essere utilmente, opportunamente e tempestivamente informato. Ma se vi devo dire l'apporto più importante, e spero che non mi sia sfuggito perché nella finezza del discorso qualcosa, specialmente mi riferisco a qualche amico tedesco, potrebbe sfuggire, nella finezza del discorso vi era una trama continua che alla fine ci si è svelata chiaramente, ma che era sempre presente: il rapporto fra diritto e vita, fra diritto e storia, diritto e concretezza delle circostanze nelle quali il diritto si attua e si realizza. Di fronte a questo diritto che si muove nella storia, che respira della storia e delle esigenze degli uomini, vi è questo grande fenomeno dell'umanismo, che è in un certo senso, perdonatemi questa parola italiana un po' fuoriuso, l'arzigogolo, lo stimolo, il pungiglione che vive intorno all'umanesimo, che in un certo senso lo stimola, lo risveglia, lo disturba. Eppure a un certo momento entra in contatto con questo umanesimo, con questo diritto, si deve misurare con lui e si pone a un certo punto come esigenza di rinnovamento del diritto. Un'esigenza di rinnovamento, un'alternativa di diritto che sarebbe stata possibile, e qui è l'importanza della parte conclusiva, direi, degli ultimi 5 minuti della relazione del professor Aschelli, di questo diritto che poteva con l'umanesimo essere rinnovato se ci fossero state le forze politiche capaci di creare questo rinnovamento. Il diritto, ripeto, vive del legislatore e col legislatore, in una osmosi tra prassi legale e opera legislativa. Qui, se ho ben capito, l'umanesimo ha in un certo senso contribuito a porre in rilievo il fallimento, la permanenza delle vecchie forme che abbiamo chiamato gotiche del diritto canonico e romano, è la indicazione, la manifestazione che in realtà alla fine del 400 forze rinnovatrici politiche nell'Italia non c'erano. Badate che è una conclusione di uno studio fondato sui problemi giuridici, ma è anche una conclusione che va al di là dei problemi giuridici. È il problema, l'immenso problema, che è la crisi italiana della seconda metà del 400 e del primo 500. Questa crisi italiana che è il problema centrale tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. D'altra parte, dobbiamo dire al professor Aschelli, almeno per quello che personalmente io sento, ma credo di poter interpretare un po' l'animo di tutti, un grazie per avere affrontato, questo permettetemi di dirlo, di aver affrontato un argomento non per lui, specialista di questi problemi, ingrato, ma certamente non semplice, perché credo di poter dire, senza far velo alla sua, offendere la sua modestia, noi abbiamo avuto quest'oggi, su questo problema, una sintesi per molti aspetti nuova. Il nostro seminario ha avuto, devo dire, in questi giorni, il piacere e la soddisfazione non comune di avere, e qui non mi riferisco più al solo professor Aschelli, di avere avuto una serie di indicazioni nuove, che siano quelle che ci sono venute dai lavori del professor Laghi o del dottor Sess, del dottor Goldbrunner, e adesso del professor Aschelli, e delle osservazioni del Milanovic e delle osservazioni che più volte si sono intrecciate nel corso delle nostre discussioni. Io penso che in questo senso il professor Aschelli ha contribuito a porci non un quadro globale degli inizi dell'umanesimo e dell'umanesimo italiano. Non ci potevamo proporre questa ambizione perché non ci sarebbe bastata una settimana né un mese, anche se in questi giorni credo che abbiamo lavorato senza perdere tempo, ce lo possiamo dire onestamente tutti quanti. Ebbene, ma ha contribuito con gli altri colleghi ed amici, ha contribuito a puntualizzare una serie di problemi, che siano quelli della grammatica, che siano quelli di Lorenzo Valla e della sua diffusione, cioè di un'applicazione di metodologia critica, che siano quelli del Bruni e del mondo della vita economica e sociale fiorentina, che siano quelli della storiografia, che siano quelli del vedere allo stato nascente questo mondo umanistico che si esprime. Diciamo quindi che ringraziamo il professor Aschelli per averci messo, diciamo così, l'ultima indicazione, l'ultima tessera di un mosaico che non pretendeva di essere completo, ma le cui linee fondamentali credo che per tutti saranno motivo di riflessione. prima di passare alla discussione, ci concederemo 5 minuti o 10 di respiro e vi annuncio una cosa. Se sarà possibile, però uno dei nostri colleghi presenti ci dirà un po' brevemente, come lo abbiamo pregato, ma ci dirà le sue impressioni e la sua esperienza dopo di aver trascorso a Tours il seminario, diciamo, cioè il corso sulla, sul romanticismo tedesco. È un'esperienza di un giovane, ma questa esperienza probabilmente potrà essere utile. Comunque, se sarà possibile, perché il tempo di questa mattina in un certo senso è prezioso in ogni minuto. Quindi io sto zitto, prego. No, io volevo soltanto dire che il professor Milanovic mi ha telefonato e pregato di portarvi i suoi saluti e in modo particolare al professor Ascheri. Benissimo, grazie mille. E noi lo ringraziamo anche per quello che dire ci ha dato. Allora, 10 minuti di... dovremo, senza perdere un attimo, andare a consumare il nostro pranzo. Dopo il pranzo, quelli i quali hanno un treno, che è per, credo per quasi tutti, per molti, il treno delle 13.42, 13.35 e 45 per Roma, avranno la precedenza del pulmino che li porterà all'albergo e poi alla stazione. Noi prenderemo, grazie a Dio, oggi una giornata splendida, prenderemo aria al ristorante, che poi verrà, il pulmino poi verrà a prenderci e ci riporterà a Trento. Quindi, mi raccomando, per piacere, non ho mai fatto quello che in italiano si chiama il caporale di giornata, ma oggi un po' sì, vi prego di non disperdervi, perché poi se perdete il treno è affar vostro. Questo, scusatemi, però qualche volta bisogna un po' essere spicci, sbrigativi con le parole. Allora, nella lezione del professor Ascheri c'erano problemi a iosa, quanti se ne possono desiderare. Chi di voi ha delle questioni particolari da porre, delle questioni da rivolgere al professore? Prego. Io vorrei appunto riprendere un discorso che avevamo fatto prima. Cioè, io ho chiesto appunto l'intervallo al professore che, cioè, se appunto l'umanesimo giuridico nel senso che è proprio in Italia non si può parlare, nel 400 sicuramente no, e nel 500 ci ritroviamo fuori d'Italia, cioè facciamo comunque l'Italia con la scuola punta, e quindi quando si può in qualche modo parlare di una rottura, diciamo appunto come diceva lei, con la tradizione, diciamo, quasi era direttamente all'Innocenzo, poi a Bologna. Dunque, una rottura con questa tradizione gotica, per dirla sempre con Milanovic. Dunque, sì, perché è una cosa di cui non mi sono occupato, dato la limitazione cronologica della relazione, no? Ecco, tutta questa operosità, diciamo, umanistica intorno al diritto sfocia poi in un personaggio come l'Alciato, allievo del Parrasio, erudito in latino e in greco e così via, insegnante ad Avignone, Bourges e poi Pavia. Ora, Alciato è in fondo un isolato nella scienza giuridica italiana. Ora, io non voglio dire che la scienza giuridica italiana del Cinquecento sia gotica in tutto e per tutto. Certo ci sono dei personaggi, Panciroli, che ha certe ricerche di tipo umanistico, insomma, indubbiamente. Ci sono altri personaggi, il Mantova Benavides stesso è un personaggio che ha il culto per a certi interessi indubbiamente umanistici. Però ecco, l'incontro tra filologia, tra umanesimo e diritto ormai è chiuso. Anche lì siamo di fronte a personaggi che operano siamo proprio di fronte a una doppia personalità, no? Operano da giuristi in un certo modo e da umanisti in un altro modo. Ecco, questa congiunzione in Italia non si verifica. Dove si verifica? Si verifica invece in paesi come la Francia, dove c'è bisogno di formare un diritto nazionale. Ecco, allora lì la critica umanistica serve in sostanza, finisce per demolire l'edificio medievale, per demolire quello che è stato costruito intorno al corpus iuris civilis, e quindi serve per far emergere quello che c'è di vitale, diciamo, quello che si può ereditare veramente dalla tradizione sia romanistica, sia bizantina, sia medievale. In fondo il grosso sforzo dei giuristi umanisti francesi è stato appunto quello di far emergere quello che c'era di vitale nelle varie tradizioni. I giuristi umanisti francesi, anche tra l'altro tradizione barbarica, diciamo, delle leggi germaniche, ecco, loro studiano tutte le manifestazioni giuridiche dell'antichità per vedere che cosa può essere utilizzato per la legislazione nazionale francese. Ecco, in fondo è l'umanesimo, il giurista umanista francese è quello che praticamente fa il lavoro preparatorio che sfocia poi nelle grandi ordonnance, ecco, nelle grandi ordonnance dello Stato assoluto. Il lavoro preparatorio è fatto da giuristi che sono umanisti. In Italia questo naturalmente non avviene. Anzi, il giurista continua naturalmente a fare il suo lavoro, che è naturalmente interessante. Ci sono dei personaggi del 500-600 che sono grossi, che meriterebbero attenzione, anche perché attraverso queste opere si può avere un'idea molto più chiara della crisi, della cosiddetta crisi italiana del 600, della decadenza italiana. Un personaggio come Giovan Battista De Luca, il cardinale De Luca, che è autore di una specie di enciclopedia giuridica, no? È un'opera che permette che apre veramente una porta sul 600 che è molto importante, insomma. Ecco, che in genere è trascurata invece dagli storici politici e letterari, di nuovo, no? Questa incomunicabilità che continua sempre. Ecco, però nel 600 ancora si va per la strada, si continua tranquillamente a utilizzare la giurisprudenza medievale, si prosegue per quella strada. La rottura avviene soltanto nel 700. La rottura è nel 700. Non per niente nel 700, ad esempio napoletano in particolare, il 700 napoletano è quello che recepisce la giurisprudenza umanistica francese, olandese, tedesca. Viene stampato quasi tutte le cose umanistiche francesi, olandesi, eccetera, vengono stampate a Napoli nel 700. Tutto. Grandi edizioni del Cuiaccio, grandi edizioni di tutti gli storici e gli umanisti, insomma, stranieri, avvengono a Napoli. C'è qualcosa anche a Lucca, qualcosa di umanistico anche a Lucca, ma forse lì era un po' la situazione dell'arte tipografica proprio. Sì, e poi la possibilità di pubblicare autori protestanti che a Napoli si potevano pubblicare. Ecco, perché Lucca era una specie di porto franco intellettuale. Che permetteva di fare delle cose che altrove, insomma. Dove l'enciclopedia, come voi sapete, è stata pubblicata a cura dell'arcivescovo come Gian Battista, ma Gian Domenico Magno. Sì. Ecco, però la rottura viene solo a quel livello. Ecco, io vorrei aggiungere, poiché la signorina ha parlato soprattutto della, accennavo un momento alla Francia, eccetera, che proprio all'inizio del Cinquecento e sotto stimoli della cultura e della storiografia umanistica, perché noi abbiamo accennato alla storiografia umanistica tedesca, ma non esiste solo quella, evidentemente, noi abbiamo il porsi di un problema che è nello stesso tempo politico e storico. La monarchia francese, l'origine della monarchia francese, è un po' quello che lei accennava, si comincia a domandare, ma insomma questi franchi chi erano, che cosa sono, la monarchia francese che deve a questa gente? Cioè sorge quello che poi sarà tra la fine del 600 e l'inizio del 700 l'enorme discussione sulla monarchia francese, che è un problema, per carità, che esce assolutamente fuori dai nostri problemi, ma le cui origini nascono qui, non sai, c'è Claude de Seyssel, della monarchia della France, Guillaume Budet, eccetera, che si pongono appunto il problema, che è un problema storico da una parte, politico dall'altra, e dove l'humus è precisamente umanistico. Il Seychelles vive alla corte del re di Francia ed è arcivescovo di Torino. Sì, Seychelles è completamente al di fuori, insomma, della cultura italiana. Sì, completamente. No, è un francese. Allora, come già altre volte, allora, no, c'è proprio questa coincidenza, oltre che nei diritti, anche nella storiografia, dico, proprio per le condizioni sociali, politiche, economiche e religiose che abbiamo in Italia, dico, è venuto meglio il modello storiografico umanistico, cioè, anche la storiografia, dopo c'è ritorno all'antiquariato, e si vedono le grane che ha il cigogno, allora sì, che cerca di chiamarsi invece al modello umanistico, mentre in Francia, appunto, cioè, apparentemente è antiquariato, c'è questo infatti così ai tagli, ma in realtà si tratta di un recupero dell'antica civiltà per dare le basi allo Stato nazionale francese e affrancare lo Stato nazionale francese dalla Chiesa, eccetera. È tutta un'altra cosa la Francia del Cinquecento. Qui viene, scusi un momento, ma qui viene l'importanza, e perciò io mi sono permesso di sottolinearlo, della conclusione del professor Ascheri, cioè che sì, umanesimo, sì, diritto, ma stiamo attenti, questo umanesimo e questo diritto hanno una loro vitalità che affonda le sue radici nella storia, e se questa storia va per altre direzioni, anche l'umanesimo e il diritto diventano, come adesso si diceva, tendono perlomeno a trasformarsi in antiquaria o in pratica legale, che anche quella deve continuare a vivere. Umanisti o non, diritto o non, la gente fa cause, litiga, c'è quello che ammazza la moglie o che dà propina il veleno alla suocera, e naturalmente quelli vanno in tribunale e ci sono gli avvocati, come sempre, e il diritto continua a camminare perché non si può fermare. Però poi vengono i grandi problemi se e come questo vecchio diritto accompagni la nuova vita. Questi sono un po' trascurati, in effetti, perché si guarda più al nuovo, naturalmente, no? La storiografia, mentre ora ci sono queste cose, le ricordavo rapidamente, di Kelly, di Donald Kelly, americano, che sul Cinquecento francese sono molto illuminanti, veramente. Ma poi ci sono tante cose su Claude de Seyssel, tutti questi personaggi sono ampiamente studiati. La monografia ora di McNeil, insomma, c'è una produzione vastissima. Sì, guardate che se tocchiamo l'umanesimo francese, è chiusa. Sette giorni, noi li faremo volentieri, non so cosa diranno quelli della storia. Della storia moderna. Ma è giusto perché ci è servito proprio per quel opportuno contrappunto, diciamo, tra quella che è la situazione politica italiana alla fine del 400 e l'inizio del 500 e quella che è invece la situazione francese. Allora, qualche altra osservazione? Sì, scusi. C'è un altro punto molto interessante. Cioè, quando hai parlato del ritardo e praticamente del fallimento dell'umanesimo giuridico in Italia nel 400, cioè, da un lato hai detto c'è la mancanza di una legislazione statale adeguata, no, che copra tutte le situazioni giuridiche, e quindi l'impossibilità, facendo crollare la struttura del diritto romano medievale, del diritto canonico medievale, di poter sostituire qualche. Hai anche parlato però di un altro aspetto che è collegato in parte a questo, ma anche alla sua autonomia, cioè del rapporto tra i giuristi e il potere politico, e tra i giuristi e direi anche i centri conservatori della società. Quando noi vediamo per esempio a Pavia lo scandalo che suscita la lettera del Papa, no? Nel febbraio del 33, in cui addirittura l'abbiamo visto in questi giorni, succede che il Balla che si reca in Duomo, aveva trovato la lettera di un osservatore neutrale, non si sapeva bene cosa fosse successo. C'è un umanista bergamasco, un certo Francesco Oca, che era presente, infatti, e vi racconta a un amico, dicendogli tra l'altro, precipita, di cui c'è una cattedra libera, potrebbe essere tutto il mondo vecchio sempre più. E purtroppo l'amico invece va male, no? Ecco, succede addirittura quello, che va alla Sueca, nel Duomo di Pavia, per assistere a una cerimonia di laurea. Dice, no, ab omnibus verbus, sia della facoltà degli artisti che della facoltà dei giuristi. E il vescovo di Bobbio, che sostituiva il vescovo di Pavia, questo passo che era Basilea, non siamo nel 33, era il concilio, dà ordine che il Valla venga arrestato. Perché succede una reazione di questo genere? Il Valla poi scappa presso il vicario del podestà, una zona, una casa, diciamo così, immune dalla giurisdizione, lo comprendono, poi riesce ad andare a Milano e va bene. Parenti che poi non ha lettura direttorica per qualche tempo a Milano. Ecco di qua, perché una reazione di questo genere? Reazione che abbiamo anche per la lettera del medico al capo. Io direi perché il tipo di critica che fa il Valla, che fanno il medico, faceva saltare tutto. No? Era inammissibile. Inammissibile. Anche nelle eleganze. Se fa saltare il sistema della comune soffitta. Sì, sì, sì. No, è un sistema, è una contestazione inammissibile. Se io affermo il principio della libertà critica, se io addirittura Lorenzo Valla dico che non le oche, come le chiama lui, Marco, Antonio, queste oche qui, ma addirittura i grandi giuristi romani, Papiniano, quelli qui, sbagliavano su alcuni punti, no? È il quarto libro, è il tema del quarto libro. Crolla tutto. E a un certo punto salta tutto, perché invece il principio che teneva in piedi il sistema era l'altro, no? Certo. Era il principio della comune soffitta, cioè dove il maggior numero di dotti, di dottori, di maggior peso convergeva, e allora lì si aveva praticamente una vera e propria fonte giuridica, no? Sì, sì. No, è vero. Questa contestazione globale fa saltare tutto il sistema ed è per questo che ci sono quegli umanisti fiorentini invece come Salutati che invece avvertono a naso quasi, no? La pericolosità della critica umanistica e salvano la giurisprudenza medievale perché si rendono conto che una contestazione globale qual è quella appunto del Valla è pericolosissima perché non lascia niente, lascia un vuoto. Ecco, questo è il pericolo che c'era dietro quel tipo di contestazione, insomma, no? Dietro quel tipo di attacco del Valla. E di qui l'ambiguità, direi, di certe figure, come per esempio quella del Sacco, che hanno degli interessi notevoli, no? In queste cose. Che hanno dietro anche una certa politica riscontera, a fin dei conti è interessante, come hai accennato, vedere come, non so, Guarnerio Castiglione, che era l'artefice della pagina di Lodi, che era il consigliere di Francesco Sforza, il Sacco, che è quello che firma il consiglio per la successione di Filippo Maria Visconti, in cui si dà per vera la falsa donazione di Filippo Maria Visconti allo Sforza del Ducato di Milano. No? Vede, quindi, dentro il Sacco che viene usato come oratore ufficiale quando arriva l'imperatore, quando arriva Renato d'Angiolo, con il tentativo sfortunato di recuperare il regno di Napoli, che ricopre cariche pubbliche, non soltanto il Lombardino. No? Ecco, questo Sacco qui, vediamo che è interessante, vediamo che addirittura no, abbiamo quella repentizio, la Res Peregre, che è l'unica opera stata da sua, che è il primo trattato di mnemotecnica umanistico, è il primo trattato di mnemotecnica applicato al diritto, un'opera chiaramente umanistica. Però vediamo anche che il Sacco, che in quegli anni lì, intorno al 30, per esempio nella lettura sul primo libro del Codex, che è conservata alla capitolare di Novara, usa, direi qui veramente in senso umanistico, e qui per esempio l'epistolario Cicerone, lettera d'Attico, per spiegare le condizioni dell'inverno. Poi, quando avviene la frattura, quando il Valla se ne deve andare, quando l'ordine viene ristabilito, ripiega, e allora vabbè, al massimo vediamo che scrive al Filelfo e gli dice: ma si parla di un certo Gaius. No, dice, non sei capace tu di vedere se nelle lettere di qualche autore classico non ci sia qualche cosa. Va bene, si adopera perché a Milano si è istituita una cattedra di greco. Si interessa di alcune cose, scrive poesie in latino, si tiene in corrispondenza con Qualinco, difende una sua parente in una causa importante. Però c'è un certo ripiegamento. Sì. E diventa così, non so. Difatti, quando rifà nel 50, quindi 30 anni dopo circa, quella stessa lettura sul Codex, dedicandola allo Sforza, una lettura che è conservata alla Nazionale di Parigi, vediamo che sì, per esempio nel Proemio cita Platone, cita Aristotele, era uno che conosceva il greco, c'è una lettera del Filelfo che dice: di Euripide che ti ho prestato, piange, perché è chiuso nel tuo carcere e non torna più al suo padrone. No? Era uno che conosceva anche queste cose, però vedi che sono cose così esornative. Tanto che nella prefazione a questa lettura dice: sì, bisogna fare queste cose, però non bisogna esagerare. Certo, è necessario questa apertura alle nuove cose. Sì, mi sembra un caso. Un tentativo di rinnovamento, no? Forse direi prima, cioè da Cristoforo Castiglioni fino al Besozzi, in un ambiente non specificatamente umanistico, anche se per esempio il Besozzi è coinvolto in un episodio qui poco pulito, assieme a Paranormita, il tentativo di trasportare nascostamente, cioè di spingere il principe a trasportare nascostamente dai paesi da facoltà da Pavia. Ma poi ne succede uno scandalo, il Besozzi taglia la corda lasciando il Paranormita nelle teste, no? come si dice. Ecco, in questi qui direi che c'è stato quel tentativo, no? Ritorno, torniamo alle fonti, eliminiamo la grossa, quel passo del Fulgorio cui tu accennavi, no? Sì. Quello qui che si trova a discutere, dice, era un studente, dice, però non ero stupido, Santi Sacutus, abbastanza, già allora. A discutere con un amico, dice: a un certo punto porto il testo, allego il testo contro la glossa, perché discutendo con questo amico si parlava della lezione del professore, questo qui delle cose, guarda che il testo dice così, e quell'altro dice: no, la glossa vale più del testo. Certo. E lui dice: certamente mi sbaglio, no? Dice, mi sbaglio perché i glossatori sono delle aquile. Ma che dico delle aquile? Dice: sono i quattro evangelisti, su loro bisogna giurare. Certo. Qui c'è stato, poi a un certo punto c'è stato un blocco. Sì, sì, ma perché non c'era. Non progredita la società. Non c'erano sbocchi, non c'erano altri. Dove si andava? È questo. Mancava una direzione, insomma, proprio. E quindi questi si trovano in aperta crisi, insomma, e devono sdoppiarsi proprio, no? Fare l'umanista un giorno e il giurista un altro, insomma. Con uno sdoppiamento di personalità. Dopo Brumen. Io volevo chiedere al professor Aschieri una cosa, sottoporgli. Nella mia conferenza ho accennato alla lettura di Ermolao Barbaro, che Ermolao Barbaro ha fatto a Padova nel 1474-75 delle opere morali di Aristotele. Servendosi non della traduzione umanistica, bensì di quella medioevale normale. Ora volevo chiederle una cosa: l'atteggiamento, cioè in questo caso si può dire un atteggiamento non umanistico, gotico, questo atteggiamento corrisponderebbe, perché anche lei, se ho capito, ha nominato Ermolao Barbaro, c'è una corrispondenza con l'atteggiamento giuridico di Barbaro, insomma, Io l'ho ricordato solo come dottore in un troppo iure. Ecco, questo però non so fino a che punto questa sua formazione giuridica possa aver influito. Sì. Ecco, qui, anche qui, ecco, sarebbe necessario di nuovo uno studio specifico, sì, cioè vedersi il Barbaro in tutta la sua formazione culturale, in tutto il suo curriculum, e considerare globalmente tutta l'opera. Perché è chiaro che il Barbaro ha naturalmente conosciuto anche la traduzione del Brodi e la cita in note marginali, però la lezione fa sulla traduzione, esclusivamente sulle traduzioni medievali. Certo, questo è anche significativo, insomma. Però, sì. Secondo me le traduzioni medievali per la scuola, per le lezioni erano più comode. Erano più comode. Forse anche molto più diffuse, anche perché molto anche questo. Un problema di reperimento. Sì. Anche un problema di reperimento per gli studenti, forse. Ma lei non ha trovato niente di particolare? No, vorrei... Bisognerebbe, credo, studiarlo da questo punto di vista. Ecco, per i suoi rapporti con il diritto. Sì. Ecco, questo non che io sappia non è stato studiato sotto questo profilo. Però, ecco, so che è stato in rapporto, Barbaro, in rapporto, ad esempio, con Bartolini. Sì. Ecco, quell'altro personaggio che partecipa un po' a quel clima così di restaurazione filologica bolognese della fine del 400. Ecco, quindi lui doveva essere senz'altro a conoscenza di questo tipo di avvicinamento. Però cosa abbia fatto lui personalmente, a meno che non sia una raccolta del Bartolini, anche ci siano alcune cose in quella... C'è una rarissima edizione del primo Cinquecento, in cui ci sono appunto queste emendazioni, la raccolta appunto del Bartolini e queste altre... C'è, si rintraccia ad esempio attraverso la voce di Abbondanza nel biografico, si rintraccia. Insomma, ecco. Grazie. Prego, figuriamoci. C'è qualche altra osservazione? Allora, se lei non ha niente in contrario, pregherei il nostro collega di farci questa sintesi.